prima di passare al bar, prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Lampedusa we go, go, go, for a better life we roll. Yeah. Oh, Dolce Musa, put me a Lampedusa. Oh, Dolce Musa, bring me to Lampedusa. Yeah. Beh, a Lampedusa ci è andato, caro Parenzo, e ha fatto uno show inenarrabile, Berlusconi, come sai, no? Sì, si è comprato pure la casa, ma dai, su. Dice che si è comprato la casa, sembra vero, su internet l'ha comprata, o sbaglio? Eh no, così sembra che ha fatto questa, ha preso, è andato stanotte sul sito www, non mi ricordo quale, agenzia immobiliare, eccetera, e si è comprato questa casa, Coup de Teatro del Cavaliere, che come sempre in questo è un maestro. Sì. Assoluto. È andato lì, ha promesso mari e monti, ha detto basta tasse, qui non le pagherete più, diventerà una sorta di paradiso fiscale, un piccolo Liechtenstein in Italia. Una questa zona franca, sì, una zona franca, burocrazia zero, eccetera, eccetera. Questo io sai che sono sempre un po' critico rispetto al Cavaliere. Un po', un tantinello qui, critico, sì. No, ma questa è una mossa intelligente, perché è l'unico modo per attrarre capitali dall'estero, eh? Sì, naturalmente bisogna prendere queste cose sul serio, perché poi, come sai bene, dalle chiacchiere, dai proclami, dai comizi ai fatti, certo. Eh beh, insomma, il passo è abbastanza lungo. Comunque, il Berlusconi. Assedio alla Camera, è in diretta, ti sto parlando. Sono davanti alla Camera. Sì, assedio, ma... cioè è passato assedio. La Russa, la Santanchè, li hanno presi monetine, il Popolo Viola, militanti del PD, eccetera, PD, eccetera. Tutto pieno, una manifestazione. C'è Bersani che in questo momento è salito sopra uno scranno. Sopra un predellino? Un predellino. Un predellino democratico, diciamo. Un predellino democratico. PD. Perché c'è la grande protesta contro il processo breve. Contro il processo breve, prescrizione breve, eccetera, eccetera. Però Berlusconi show da Lampedusa, via. Dato che voi sapete che io sono solo prestato alla politica, ma sono un imprenditore, cioè una persona concreta, mi sono ieri mattina domandato, ma incontrando i lampedusani, come posso io dargli la sicurezza che tutti i piani che annuncerò saranno davvero trasformati in realizzazioni concrete? Mi sono detto: devo diventare lampedusano anch'io. E come si fa a diventare lampedusani, Doc? Comprando una casa. Mi sono attaccato a internet, ho scovato una casa bellissima di fronte a Cala Francese, si chiama Due Palme e l'ho comperata. Quindi adesso avete nel governo un interlocutore assolutamente interessato. Beh, da questo punto di vista non c'è niente da fare, sempre il numero uno, caro Parenzo, cioè, sì, dopodiché politicamente è una cosa aberrante. Senza cravatta, cioè, sempre con la camicia fuori. E insomma, è il Berlusconi, politico, il Berlusconi che fa campagna elettorale, diciamo la verità. Sì, insomma. Ma ti pare che uno per risolvere i problemi si deve comprare una casa? Ma voglio dire, è Moro, De Gasperi, ma scusate, De Gasperi. Sì, ma De stai Gasperi tranquillo, stai tranquillo. Andava nelle zone del terremoto a dire mi compro una casa. Ma no, ma che vuoi paragonare Berlusconi a De Gasperi? Avvocato Taormina, mi dica qualcosa lei. Buonasera. Ma che le devo dire? Sarei stato più soddisfatto se avessi saputo che aveva comprato tutta Lampedusa, perché tenuto conto delle sue disponibilità economiche, insomma è una cosa di cattivo gusto anzitutto, tenuto conto che c'erano morti di fame con i quali stava colloquiando. Però la gente applaudiva, avvocato Taormina. La gente applaudiva, il dramma di questo paese è l'applauso, è l'applauso a situazioni di questo. Vabbè, ma lei è stato con genere. Berlusconi, dice di aver fatto pure delle leggi porcate, adesso lo rinnega in questo modo. No, io non ho detto che io non sto rinnegando Berlusconi, io sto dicendo semplicemente quello che penso, l'ho sempre detto, ragione per la quale sono stato a suo tempo cacciato, preso a calci nel culo dal Popolo della Libertà. Ecco, ma chi è che l'ha cacciata dal Popolo della Libertà fisicamente? Lei sono ma sono tutti, stato pre... ma tutti, tutti, non tutti, nessuno, tutti. Nessuno la vuole... cricca, cioè chi è capito? Il principale, quello che l'ha cacciata dal PDL, chi è? Verdini, chi è? Chi mi ha cacciato il PDL? Ma io penso che non esista cosa che avviene nel PDL che Berlusconi non, dunque Berlusconi l'ha cacciata, insomma, poi certo, lasciamo perdere certo quelli che poi fisicamente l'hanno fatto e che l'hanno preso a calcio nel sedere, come dice, appunto, lei tenendo la mano ben nascosta. Allora, l'avvocato Caro Tormina, che saluto, buonasera innanzitutto avvocato Tormina. Buonasera. Beh, devo dire che lei in un'intervista recente ha detto di essere di sentirsi quasi un sopravvissuto, no? Sì. Perché è uscito da una durissima battaglia contro il cancro, o sbaglio? Sì, esatto. Sopravvissuto addirittura, cioè sembrava morto, o sbaglio? Beh, pensavo, no, tutti mi davano volentieri per morto. Quando sono guarito e ho incontrato alcune persone, sì, addirittura mi guardavano e dicevano: ma lei sta qui, ma è sicuro che lei o è un sosia? E no, invece ero io, ha capito. Ma quanti mesi di vita le avevano dato? Quattro mesi. Sì. Vabbè, si può un po'. Ma anche i miei detrattori speravano in due. Ha capito? E mi sono immaginato la salma di Taormina, intorno alla quale ci stavano da una parte Ghedini e da un'altra parte Verdini, e in fondo Gasparri che ridevano, dice: finalmente l'abbiamo fatto fuori anche fisicamente. Addirittura. No? E queste sono le cose che pensavo io quando stavo per andare all'aldilà. Capito? Però, caro Tormina, lei ce l'avrà con Berlusconi, però... Io non ce l'ho con Berlusconi. Non può non riconoscere che in questo show a Lampedusa c'è la quintessenza di Berlusconi. No, ma c'è la quintessenza della degenerazione della politica. Sì, vabbè, però anche la quintessenza di Berlusconi. Cioè, sì, ma può la quintessenza piacere di Berlusconi, di un Berlusconi che riduce la politica a queste cose, nonostante abbia dalla sua parte tanti argomenti importanti, perché sì, dal punto di vista ideale, per così dire, e invece... ci sono molte cose. E invece... sputtana tutto in questo modo. Scriveranno: ho un conflitto di interessi a Lampedusa. Andiamo avanti col Berlusconi Show. Domani sui giornali della sinistra leggerete: conflitto di interessi. Ancora una volta Berlusconi cura gli interessi suoi. Benissimo, cureremo i nostri interessi. Poi, caro Parenzo, ha annunciato qualsiasi cosa. In 48-60 ore sull'isola ci saranno solo lampedusani, un piano colore, un piano verde. Andiamo col piano verde. Voglio sapere qual è il piano verde per Lampedusa. Via! Ma anche sorvolandola recentemente, guardando Lampedusa, io ho potuto notare, rispetto ai miei ricordi, un degrado nel verde assolutamente significativo. E allora ecco l'impegno per un piano verde per il rimboschimento della vostra isola. Ma come un piano verde? È una cosa eccezionale, cioè. Si è messo a fare il ministro dell'ambiente insieme. Ma la cosa più bella, io lo aspetto al varco del premio Nobel, perché quella... Eccolo qua, Nobel per la pace a Lampedusa, via. Visto che la vostra isola è stata eletta punto di frontiera tra civiltà senza democrazia, senza libertà, senza benessere, e la civiltà occidentale ed europea che invece gode della democrazia, della libertà e del benessere. Per questo il governo presenterà nel prossimo Consiglio dei Ministri la candidatura di Lampedusa al Nobel della pace. Bisogna dire, avvocato Tormina, che il Nobel per la pace, la candidatura si può fare per qualsiasi cosa. Hanno addirittura candidato lo stesso Berlusconi, un comitato, sì, per il Nobel per la pace. Ma guardi, siamo arrivati veramente alla barzelletta, insomma, francamente, se questo deve essere la mediaticità della politica, insomma, francamente siamo arrivati. Però senta questo, ho comprato i pescherecci, farò commercio di pesce fresco, questo è eccezionale, non è mai. Sì, questo non l'avete sentito ancora, senti. Abbiamo attuato una serie di misure, diciamo così, anche imprenditoriali, ve ne dico una variopinta, stiamo anche comprando dei pescherecci affinché non possano più venire usati. Vorrà dire che quando mi ritirerò dalla politica, li prenderò io e metterò su un'impresa per il pesce fresco. Ma poi che vuol dire? Abbiamo comprato dei pescherecci perché non vengano usati? No. Ma si sta prendendo per il culo, ma non capite che sta prendendo in giro tutti questo signore? Francamente siamo arrivati ad una situazione di vera e propria insopportabilità. Ripeto, con il grande torto che continua ad avere di occultare la vera natura di una politica liberale, sì, di una politica. Ma lei la sta prendendo sul serio? Lei dice che questa è. Ma guardi che queste cose che sta facendo Berlusconi, sì, che ormai si sente in campagna elettorale, avranno un seguito. Purtroppo avranno un seguito. Ma lei non ci crede che farà tutte queste cose a Lampedusa, avvocato Tormina? Lei che lo conosce bene. Ma non farà un cazzo, non farà, dai. Ma come non farà niente? Ma come, che dice? Vabbè, niente di tutto questo, nemmeno il verde, il piano colore. Cos'è il piano colore? Se ha trovato qualcuno che gli ha venduto la villa a 4 soldi, probabilmente quella la compra e ci manderà un po' di cose di Rubi, di Nicole Minetti eccetera, a fare anche lì un po' di bunga bunga, forse va pure più vicino all'Africa del Nord, per cui dovrebbe venire bene. però Parenzo, c'è la questione del piano colore, il piano colore di qual è il piano colore. Io riesco solo a ridere, devo dirvi la verità, cioè non riesco a entrare, come dire, ad accalorarmi e a dire no, è uno schifo come fa l'avvocato Termina. Riesco solo a ridere perché quando uno va a Lampedusa in una notte magari pensa uno show di questo tipo, c'è della genialità, c'è naturalmente anche la genialità del male, se volete, però c'è della genialità, non c'è dubbio. Il piano colore, cioè uno come fa a pensare vado a Lampedusa, l'emergenza, immigrati eccetera eccetera, e dico mi compro una casa, c'è il piano verde, il piano colore, il piano viabilità, compri pescherecci, cioè per pensare a cose di questo tipo. Avvocato Tormina, i redice qualcuno, le pensa lui secondo lei? Ma guardi, ormai secondo me il delirio di onnipotenza è diventato autentica follia, ma dovete considerare che questo modo di fare ha intorno a lui poi una situazione a valanga, c'è un popolo che lo segue, c'è una classe dirigente, tra virgolette, perché di dirigente ha poco, che lo segue e via dicendo, e tutto questo comporta che chi non è dalla sua parte viene schiacciato, non ve lo dimenticate. Vabbè, mai queste cose qua escono da Berlusconi o gliele consiglia qualcuno? Escono da Berlusconi. Ma chi è quello più vicino a lui, il peggiore consigliere di Berlusconi? Chi è secondo lei? Il peggiore di tutti? Cioè quello più inetto, più incapace, chi è? Appassionante, guardi. È complicato poter, perché là sì, lì è un intreccio tra consiglieri, tra consigli e interessi. Sì. E naturalmente spesso interessi anche non proprio totalmente legittimi. Per cui, insomma, quello più interessato chi è? Ghedini? Ghedini si fa gli affari suoi, guadagna un sacco di soldi, lo fa essere eternamente imputato e così gli spilla più soldi quanto più è possibile, ha trovato il suo modo di vivere, per carità, tutto sommato. Ma è bravo almeno a farlo o no? Beh, io penso che uno che è imputato da 17 anni vuol dire che non ha trovato l'avvocato giusto, poi non lo so, insomma, però forse, io la penso così. Forse l'avvocato giusto per guadagnare un sacco di soldi, cioè forse fa i suoi interessi e basta, lei che dice? Io credo che siccome lui dichiara di avere preso un sacco di milioni di euro, quanti ne ha guadagnati secondo lei? Quanti ne ha guadagnati? Non lo so, guardi, io i conti non gliel'ho fatti, però insomma mi pare che viaggiamo intorno a cifre tipo veramente ragguardevoli. Insomma, ho sentito parlare di 4-5 milioni di euro. Berlusconi dice che ha speso 400 milioni di euro. 4-5 milioni di euro in tutti questi anni mi sembra poco, anche o no? No, io mi fisco agli ultimi cioè, episodi, in tutto, secondo lei, alle indagini difensive che ha fatto adesso, ma in tutto, secondo lei, Ghedini, quanto ha guadagnato da queste vicende? Così ma faccio, guardi, un calcolo, lei che fa la bocca. Ma insomma, se ha speso 400 milioni di euro, 100 saranno andati a Ghedini, sì, penso di sì, no? 100 milioni per Ghedini, 18:46, Parenzo, ci sentiamo tra un attimo dopo il traffico, anche con l'avvocato Taormina, Carlo Taormina, che si candida a Napoli, sindaco di Napoli per Lega Italia. Poi ci spiegherà, ma che si candida a fa a Napoli, Taormina, traffico. Allora, naturalmente nell'ultima dichiarazione dei redditi Ghedini dichiara 1,3 milioni di euro. Questa è l'ultima dichiarazione dei redditi, ma sta succedendo un casino alla Camera. Parenzo, che succede con la Bindi? Io sto qui davanti, ora sono li vedo dalla finestra da dove ho registrato la trasmissione di stasera. Sì. Centinaia di persone, bandiere dell'Italia dei Valori e del PD. Bersani ha parlato da poco, ora c'è Leoluca Orlando che sta arringando. Sì, perché il vicepresidente della Camera Bindi è uscita fuori per dire togliete l'assedio a Montecitorio. C'è stato uno scontro fortissimo tra La Russa e Fini all'interno dell'emiciclo. Fini ha sospeso la seduta. Marino, esponente del Partito Democratico, ha detto: bisogna fare un gesto eclatante, dimettiamoci tutti. Stiamo parlando della presentazione delle norme sul processo breve, la prescrizione breve, eccetera eccetera. E La Russa che dice all'opposizione: voi, se non date la solidarietà per queste aggressioni che ho subito fuori dalla Camera, siete più violenti dei manifestanti. C'è questa storia dell'Aventino, no? C'è qualcuno dell'opposizione. Sì, i carabinieri stanno circondando, diciamo, le dove c'è Piazza Colonna, no? Sono tutti i carabinieri in semicerchio e ci sono queste persone pacifiche, indubbiamente con cori. Pacifiche bisogna vedere, pare che qualcuno abbia tirato delle monetine alla Russa o non so chi, alla Sant'Anché. Io vedo da qui che ora cantano Partigiano, portami via, bella ciao. Insomma, il clima sul si avvicinerò ai manifestanti tra un po'. Avvocato Dormina, ma questo processo breve, prescrizione breve, sono tutte porcate? Beh, mi pare. Fatte apposta per salvare Berlusconi, questo mi sembra di poterlo dire, o no? Sì, ma sono porcate anche dal punto di vista proprio della realizzazione della giustizia nel nostro paese, perché fare un processo breve, e cioè impedire ai giudici di giudicare perché hanno fatto troppo tardi, beh, francamente credo che sia una cosa veramente più anticostituzionale non potrebbe essere. Poi c'è la porcatona, quella della prescrizione breve, che praticamente si applicherà agli incensurati e agli over 65. Sì, vabbè, ma soltanto al processo di primo grado, per cui praticamente serve soltanto a Berlusconi, perché diminuire di un sesto la prescrizione, insomma, serve soltanto perché il processo Mills e altri possano rientrare nella previsione. Dai, siamo veramente sconcertati. Ma è possibile mai che non si pensa che alimentare questa tensione nel nostro paese? Qui se si viaggia tra Palazzo Chigi e Montecitorio è una cosa assolutamente inconcepibile. Cioè? Tutti i giorni è così. E la gente che. Avvocato, le manifestazioni ci sono sempre state le manifestazioni davanti a Palazzo Chigi, non è che la prima volta. No, ma ho capito, ma non questo tipo di manifestazioni basate sul processo breve, perché oggi questo succede per processo breve, insomma, le pare logico. Senta, però lei qualche legge ad persona me l'ha pure fatta, pure contribuita. Ma come, l'ho fatte. Quante porcate le abbiamo fatte, dai. Sono servite a poco, ma insomma l'abbiamo fatto. La più grande porcata che lei ha fatto qual è stata? Siccome lo dice lei. Grande porcata che poi non è riuscita a niente è stata forse quella della... Si ricorda la legge Cirami? Si ricorda la riforma Cirami? Sì, vagamente, sì, come no. Cirami, un legittimo sospetto per fare in modo che il processo in Cassazione venisse trasferito da Milano a Brescia. È sua quella roba là, avvocato. Sì, quella lì è roba mia. Sì. Ma quella là che glielo disse a Berlusconi, voi vi riunivate e dice: come facciamo a trasferire? Poi non è riuscita. No, non è riuscita perché la sera prima che andassimo in assemblea arrivò una telefonata di Ciampi, che allora era il Presidente della Repubblica, che disse che così come stava non poteva essere fatta. E allora Berlusconi si incazzò come al solito, ma poi fece quello che disse Ciampi. Gli dicemmo che però così non serviva a niente, ma lui disse: ormai siamo in ballo, dobbiamo ballare. Facemmo una legge inutile, anzi peggiorativa della precedente. Cioè avete peggiorato la situazione della giustizia pur non oggi, infatti lei non sente mai parlare di trasferimento dei processi per legittima sospicione, no? Legittimo sospetto, no, perché praticamente la norma è stata sostanzialmente svuotata, resa inoperante. Senta Taormina, ma allora, se le porcate si facevano prima, perché adesso non si devono fare? Questa è la domanda che faccio a lei. Io le porcate non avrei voluto mai farle. Abbiamo sempre cercato di farle dando un contributo alla risoluzione anche di problemi di carattere generale. Mi sta dicendo che una la voleva fare per salvare Berlusconi sostanzialmente. Ma l'abbiamo fatte, per carità. Ma voglio dire, no, quelle di adesso sono molto più mirate. Cioè la prescrizione breve è certamente fatta mirando soprattutto al risultato del processo Mills, dai. Ma perché ha cambiato idea Taormina? Perché ha cambiato idea il professor Taormina? Non è che ho cambiato idea, io ancora allora non ero d'accordo, ma c'erano dei problemi seri allora, parlo della legislatura del 2001-2006, perché c'era una forte contestazione da parte della sinistra sulla legittimazione di Berlusconi a governare. Perché noi abbiamo interpretato queste prove di forza in Parlamento come il modo attraverso il quale far capire finalmente alla sinistra che noi avevamo legittimazione a governare. Senta Taormina, sa qual è l'ultima barzelletta di Berlusconi? Parenzo, te la dico anche a te. A Lampedusa, tanto per non farsi mancare niente, all'interno della base dell'aeronautica c'erano le mamme che in questi giorni hanno protestato animatamente perché fosse risolta l'emergenza immigrati, e durante l'incontro il premier ha raccontato alle signore questa barzelletta. Durante un'indagine si chiede a un campione di donne se vogliono fare l'amore con Berlusconi. Lui lo dice, Berlusconi. Il 30% risponde, magari. L'altro 70%, di nuovo? Taormina, ma è sempre stato così Berlusconi? No. L'allontanamento di Veronica Lario è stato determinante. Ma qualcuno dice la morte della madre pure. La madre certamente era un forte... Cioè le donne gli sono sempre piaciute? A lui sempre, su questo non c'è dubbio, però voglio dire, questo tipo di trasmodare di questo degrado, insomma, francamente cominciato qualche tempo prima che Veronica Lario si allontanasse e poi dopo è precipitato. Vabbè, ma lei mi fa il moralista, Taormina, che non... Come? Lei mi fa il moralista sulle donne, sulle frequentazioni di Berlusconi? No, io non faccio il moralista, io lo fa come vi pare, però non si possono, chi riveste una carica pubblica come la sua può fare esattamente le stesse cose, ma farle in un altro modo e senza ostentare, perché qui c'è una diciamo un vizio quasi patologico della ostentazione, qui c'è l'ostentazione e credo che questo sia una malattia sostanzialmente. Ah, lei dice che è malato Berlusconi? No, pure la moglie ha detto che è malato, io non dico che è malato, dico però certamente che chi si vanta in questo modo di essere sciupa femmine e quant'altro, secondo me non è normale. Lei invece alle feste di Berlusconi non ha mai partecipato, no? No, io ho partecipato a riunioni conviviali con personalità, con lui, con intrattenimenti di vario genere dal punto di vista... Concertini, apicella e cose varie. Con apicella che cantava, però insomma queste cose... Con me non si sarebbe mai... Ma si salva Berlusconi dal processo di Milano? Secondo me Berlusconi su questi due processi, su queste due imputazioni, concussione e prostituzione minorile? Sì, ne esce fuori assolto, secondo me. Non ci sono, secondo me, gli elementi per condannarlo. Dal punto di vista giuridico per condannarlo. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Se vuole ancora con l'avvocato Taormina, c'è anche Davide Parenzo tra un quarto d'ora. Giornale radio. Caro Parenzo, che caos alla Camera tra manifestazioni fuori contro il processo breve, rissa tra Fini e La Russa, tra La Russa e alcuni parlamentari dell'opposizione dentro l'emiciclo, dentro Montecitorio, con seduta sospesa da parte di Fini. Questo ci offre oggi la politica italiana, ma noi annunciamo che cosa? Il nostro telegiornale preferito, come al solito, mentre tu ti stai recando, non so se sei già arrivato, al torpedone che ti porterà No, sono in taxi, sono in, per chi conosce Roma, Viale Regina Margherita, quindi la stazione Tiburtina è qui a 2 minuti. Sì, annuncialo giusto tu. Il tempo. Annuncia tu il telegiornale. Annuncia no, dico 2 minuti da qui alla stazione Tiburtina, giusto il tempo di ascoltare gli ottimi titoli di Bianca Berlinguer e del suo TG3. Berlusconi a Lampedusa, via i migranti, scattato il piano di trasferimenti. Isolani un anno senza tasse e il premier acquista una villa sul mare. Arrivati a Lampedusa, le navi che porteranno via i migranti, in molti partono senza sapere la destinazione. 1450 subito a Manduria. Maroni, clandestini tutti in Tunisia. Bersani, Berlusconi a Lampedusa, solo fuochi d'artificio. Lì si è comprato casa, qui l'impunità. In viaggio verso la Francia, molti dei tunisini usciti da Lampedusa cercano di passare la frontiera a Ventimiglia, ma vengono rispediti indietro. La maggioranza accelera sul processo breve, il sì entro venerdì. L'opposizione, una vergogna. Duro scontro tra La Russa e Fini, che sospende la seduta. Obama, non escludiamo di armare l'opposizione, se con o della Russia. E intanto l'Uganda si candida a ospitare l'esilio di Gheddafi. Ed è no agli emendamenti di PDL e Lega sui talk show in periodo elettorale. Per il presidente della vigilanza Zavoli, metterebbero a rischio l'autonomia. La russa in aula. L'ho riconosciuta per essere l'organizzatore dei fischi a Silvio Berlusconi il giorno del 17 marzo. La stessa persona vestita nella stessa maniera. È il frutto di una organizzazione voluta di contestazione premeditata alla maggioranza, agli organi costituzionali, alla libertà del Parlamento. Voi siete complici se reagite così. Voi siete complici se non date la solidarietà. Voi siete violenti assai più di loro. Franceschini. Vorrei capire chi ha disposto questo e vorrei capire come altrettanto casualmente il ministro della difesa, che ha un volto televisivo abbastanza noto, non abbia mancato di uscire dal portone principale per essere vittima di una enorme aggressione. Fini. Onorevole ministro, la prego. Onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, non le consento di insultare la presidenza. La seduta è sospesa. Perché a un certo punto Fini chiede rispetto per la presidenza, La Russa sembra urlargli: ma che fai? E sembra mandare a quel paese anche lui. Il presidente, come avete sentito, sospende la seduta, ha un altro scambio di battute con La Russa e mentre, l'avete anche sentito, questo qua dall'opposizione gli urlano fascista, fascista, tira in aria i fogli che ha davanti. Alla fine Fini esce dall'emiciclo esclamando, questo è riportato in alcune agenzie, fatelo curare. Mentre avveniva tutto questo davanti alla Camera dei Deputati, dentro, come avete sentito, la Camera dei Deputati, Berlusconi faceva il suo show meraviglioso a Lampedusa. Meraviglioso intendo naturalmente dal punto di vista mediatico, come è evidente. Alcuni dicono per, come dire, per silenziare il processo breve. Non mi pare un'operazione granché riuscita dopo quello che è accaduto alla Camera, perché non si può silenziare nulla in Italia, inutile che dicono stupidaggini. E su questo vi abbiamo fatto sentire quasi tutto. Cosa sentiamo? I pescherecci, il piano verde, il piano colore, il piano di abilità, sull'isola solo lampedusani in 48-68 ore, Nobel per la pace, comprato casa. Cosa preferisci, Parenzo? Ma quello della casa è straordinario, perché Lampedusa sarà la sua Sant'Elena. No, la ventunesima casa, perché una volta disse ho 20 abitazioni, no? Ti ricordi recentemente? Ho 20, sì, come no, ho 20 case, detto... forse quella di Lampedusa è la ventunesima. Ho comprato casa, risentiamo questo, su. Mi sono attaccato a internet, ho scovato una casa bellissima di fronte a Cala Francese, si chiama Due Palme e l'ho comperata. Quindi adesso avete nel governo un interlocutore assolutamente interessato. Poi avevamo annunciato il piano colore, che non abbiamo sentito perché siamo stati travolti dalle parole dell'avvocato Tormina, che ritornerà tra noi tra una decina di minuti. Restate dunque sulla Zanzara. Un po' di pacatezza nella discussione, è giusto. Questa è sempre la Zanzara, se non te ne fossi accorto. 800 24 00 24. Come ti sembra questa trasmissione, Parenzo? Adesso... No, è buona questa trasmissione, che fai, è bella, fai riascoltare gli audio. È buona, no? L'etichetta che mette lì, sei bravo, l'ha detto tutti. Cruciani sei tu, no? Sì, Cruciani. Mi sembra di sì. È bella questa trasmissione qui, è bella perché poi molto molto ascoltata in giro. Sei bravo. Beh, grazie, non c'è male. E bravi anche i ragazzi del Sole 24 Ore, la Confindustria, sono brave persone, secondo me. Dici? Lo dico senza interesse, diciamo, no? Lo dico proprio disinteressato, no? Così, senza è un giudizio disinteressato. Bravo la Confindustria, grazie. Bene. Preannuncio un collegamento alle 19:35 con il professor Luttuak, che tu conosci bene, professore Luttuak. Oh, veramente? Sulla Libia, sulla guerra, sì, la Libia sulla guerra. Ma dare tutto è unica soluzione. Collegamento fra poco con il professor Luttuak. Intanto il piano colore di Berlusconi. ho ricordato la mia visita nell'isola purtroppo di molti anni fa e c'è qualche cosa che mi è sempre rimasto dentro e che io vorrei suggerire al signor sindaco Italiano, di dotarla di un po' più di colore. Io l'ho fatto in un paese della Lombardia che ha delle strade di accesso a una mia iniziativa che è la Università della Libertà, che è quasi terminata. C'erano delle strade brutte, con delle case senza l'intonaco, con degli intonaci scrostrati senza le tinture giuste. Ho realizzato una situazione di colori alla Portofino, usa dirsi così, è stato un piano colore che mi piacerebbe poter attuare anche nella vostra isola. Beh, Parenzo, ti rendi conto con tutti i problemi che hanno a Lampedusa? No, il piano colore alla Portofino. È un seduttore, ha detto benissimo. Io ieri ho rivisto il film di Rizzo e Stella, Silvia Forever, e devo dire che veramente è un seduttore, cioè lo raccontano bene. È un vero seduttore, è un venditore. Cioè io anche il piano colore alla Portofino. Sono io quasi convinto. Lo voglio sentire ancora, dopo lo risentirò. Il piano colore alla Portofino, si dice così. Vuole esportare Portofino a Lampedusa. Con applausi da sotto, la gente che applaudiva, eccetera. Ah, che abbiamo Borghezio, poi gli ascoltatori. Borghezio che oggi è intervenuto telefonicamente ad Agorà. A proposito del Fuero de Bal di Borghezio. Ma anche lui fa come Berlusconi, no? Che telefona alle trasmissioni. No, l'hanno chiamato, credo, in questo caso. Figura Borghezio, che gli frega. Non di ci chiamare. Sono più regole, se no ormai. No, anche Borghezio telefona e tutto finito. No, Borghezio, figura che gli frega di intervenire. Cioè, sì, gli frega naturalmente, però non è che chiama lui, Borghezio. È una frase che esprime e fa capire a tutti qual è il sentimento della maggioranza del nostro popolo. È una frase da padre della patria, perché qui bisogna difendere gli interessi nazionali. Bossi ha parlato da padre della patria con un linguaggio chiaro, semplice, dei nostri dialetti che tutti capiscono. Linguaggio da padre della patria. Beh, devo chiaro dire... e semplice come i nostri dialetti, che è chiaro e semplice e sicuro, cioè non è che c'erano mezze parole lì. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Vabbè, d'altra parte Borghezio, padre della patria, chissà a chi si riferisce come padre della patria poi Borghezio, perché non vorrei approfondire la questione. Chi sono i padri della patria secondo Borghezio? Meglio evitare. Ma glielo chiederemo la settimana prossima. Andiamo a Verona da Mario, 800240024. Prego, signor Mario. Sì, buonasera. Dica. Senta, io le dico la verità, sono esterrefatto per l'ennesima volta dalle dichiarazioni del nostro premier, perché insomma veramente è un teatrante di primo livello, insomma, e credo che sia a livello di Gasman, di Tognazzi. Beh, perché... adesso non esageriamo, Gasman, povero Gasman, e Tognazzi ragione, forse si rivoltano. Ha ragione, più bravo, è molto più bravo lui che non quegli attori là. No, io le dico la verità, al di là di questa battuta, io sono un attimino anche incavolato con lei, perché le confesso che sentire sotto non, non è una novità, insomma, Mario. No, ma di fatti, però l'ascolto volentieri, nonostante tutto, ecco. Perché a me fa incazzare questo signore, perché insomma. E se arrabbi, mica le impedisco di arrabbiarsi io. No, però lei non deve impedire, lei non è che deve. Siccome lei si arrabbia, io non mi arrabbio, allora non è che può pretendere che io mi arrabbi, abbia pazienza. Cioè. No, ma infatti non lo pretendo, perché io avendo due bambine, so che non posso arrabbiarmi, perché poi che devo c'entra? Andare non è che uno non si arrabbia, no, non è che uno devo non si arrabbia perché c'ha due bambini. Devo andare a riabbracciarle, quindi devo essere tranquillo. Però questo signore che continua, come diceva l'avvocato Taormina, a prendere per il culo tutti gli italiani, io credo che dovrebbe comunque smetterla. E sia ben chiaro, io non sono un dipietrista, un giustizialista, questo glielo posso garantire, penso di essere abbastanza equilibrato, però mi dà particolarmente fastidio vedere questo signore che continua a prendere in giro in questo modo tutti quanti. Sì. E poi chiaramente basta vedere cosa sta succedendo adesso alla Camera per capire qual è il suo vero obiettivo. Cioè qual è? Salvarsi, salvare la ghirba, come dice il mio amico Giglioli. Guardi, non che forse era davanti alla Camera pure lui evidente, oggi, insieme al popolo viola. È talmente evidente quello che sta facendo, che insomma è inutile dirlo, insomma, ognuno ha gli occhi e le orecchie per sentire e per vedere, quindi insomma mi sembra abbastanza evidente. Un'ultima roba, se sì, mi permette. Sì, prego Mario, dica. Ecco, adesso lui arriva lì passando per Salvatore della Patria perché porta via questi signori. Allora, beh, insomma, adesso tu... Salvatore della Patria perché porta via gli immigrati da Lampedusa, non mi pare. Proprio tecnica, tecnica. Sì, tecnica. Quando tecnica. Questi qua arrivano, vengono chiaramente registrati, ci sono gli addetti che dicono sono arrivati 3-4 mila. Fare arrivare un numero così elevato, tenerli là... Sì. Mi sembra quasi tutto organizzato in modo che poi questo signore arrivasse appunto, ma come guardi, avete messo benissimo. Guardi, noi siamo spesso siamo troppo dietrologi e magari a essere dietrologi ogni tanto ci si può anche azzeccare, ma che qualcuno abbia organizzato tutto questo, abbia tenuto lì gli immigrati per poi far arrivare, non so, nell'ordine Borghezio, Marine Le Pen, Maroni e poi alla fine Berlusconi, e far fare a Berlusconi il suo show, questo francamente mi sembra ridicolo. Ma ci sentiamo dopo la borsa. 800 24 00 24. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Questo era il famoso "Io mi sento berlinese" di Kennedy. Tu dici, Parenzo, perché ho mandato questa roba? Cosa c'entra con l'attualità? Perché un po' io mi sento lampedusano di Berlusconi. Perché non voglio mutandis, paragonare. Mutandis, però. Sì, certo, non voglio paragonare Berlusconi a Kennedy. Però è Berlusconi che va a Berlino e dice "Io mi sento berlinese". È un po' come Berlusconi. C'è dubbio. Che paragoni irriverente che ho fatto. Quanto mi diverte quando faccio questi paragoni così assurdi. Di riverenti. No, ma è vero, è così. Cioè, è, chiama l'ordine dei giornalisti, denunciami all'ordine dei giornalisti. Ma ti prego. Io non devo denunciare nessuno. Ma che cosa hai detto? Dico, è un commento, non è una notizia. Cioè, dov'è il problema? No, però è un po'. Cioè, il collegamento. Vergogna, Cruciani, vergogna. Però sei berlusconiano. Cioè, abbiamo fatto tutta la trasmissione con Taormina, critica a Berlusconi, insulti, eccetera. Sei berlusconiano. Ha detto le peggio cose, ha detto scusa. Comunque, vabbè, io sono berlinese, io sono lampedusano. Sentiamo, io sono lampedusano di Berlusconi. Era legato alla questione del comprare casa e via. Dato che voi sapete che io sono solo prestato alla politica, ma sono un imprenditore, cioè una persona concreta, mi sono ieri mattina domandato: ma incontrando i lampedusani, come posso io dargli la sicurezza che tutti i piani che annuncerò saranno davvero trasformati in realizzazioni concrete? Mi sono detto, devo diventare lampedusano anch'io. Beh, insomma, è mutuata da quello, c'è poco da fare. Devo diventare lampedusano anch'io, e come devo diventare berlinese anch'io di Kennedy tanti anni. Ha dell'incredibile, tutta la storia dell'incredibile. Incredibile. La signora Isabella ci chiama da Roma, 800 24 00 24, mentre credo che abbiamo di nuovo in collegamento l'avvocato Taormina. Eccoci qui, avvocato. Eccoci, di corsa. Eccoci, leader fondatore di Lega Italia, che si candida a fare a Napoli. Taormina, che c'entra? Per dare anche lei vuole liberare la spazzatura a Napoli? Faccio un grande annuncio anche lei. Libererò Napoli dalla spazzatura. Annunci non le faccio. Il grande annuncio che faccio è che questa politica, come dire, fatta un po' di sagrestia con gli stessi, preti, non va più bene. Quindi noi stiamo lì per dire che vogliamo fare qualcosa di nuovo e di diverso. Però lei con Napoli che ci azzecca, avvocato? È di Roma. No, io con Napoli ci azzecco perché Napoli è una mia seconda sede, a parte che ho un'abitazione a Napoli, per cui ma questo conta poco. Ma sono sempre a Napoli perché gravita lavoro, intorno a Napoli, i suoi interessi gravitano in parte intorno a Napoli. Vabbè, la signora Isabella da Roma, poi l'avvocato Taormina ci farà. Vabbè, poi glielo chiederò. Isabella? Buonasera. Dica. Dunque, io volevo intervenire su Lampedusa. Se poi avessi potuto dire una frasetta a Taormina, sarei stata felice. Ma è qui Taormina, lo insulti, lo abbracci, tutt'altro. Dopo vorrei il suo parere sul fatto di tutti i processi che vanno in assoluzione per pigrizia e per prescrizione. Cioè, vabbè, non entriamo in queste cose tecniche, Isabella, no, che ce ne frega. Molti sono, come dire, non condannati per pigrizia. Vabbè, Isabella. Allora, invece volevo dire che poiché Berlusconi è un grande ed è un intenditore. Sì, di, intenditore di cosa? Beh, da Milano 2 alla fine adesso, no? Ah, lei dice dal punto di vista imprenditoriale, dice lei. Ecco, allora? E tutti sanno che è bravissimo, anche i suoi oppositori. Se lui investe in Lampedusa, altri investiranno in Lampedusa. Quindi, cioè lei sta dicendo che davvero Berlusconi ha intenzione di investire a Lampedusa? Cioè lei, perché se l'avrà messo, si è comprato una casa. Lei ci crede? Secondo me Berlusconi non butta neanche 10.000 euro. Ma adesso perché so. Li ha faticati. Dipende per cosa. Dipende per cosa. Si tiene i soldi. Che dice lei, Taormina, di quello che dice l'ascoltatrice? No, è vero che i soldi non li butta, però. Beh, dipende. Di regali ne ha fatti, sembra un sacco di ragazze. Ma quelli un sacco non di sono donne. Regali, quelle sono controprestazioni, è diverso. Non sono regali. Attenzione, avvocato Taormina, lei qui sta entrando in un terreno minato. Lei dice che. No, non è un terreno minato, è chiunque di noi. Può avere queste, in libertà questo tipo di rapporti, pagare chi vuole pagare. Dunque pagare quelle, secondo lei, quelle secondo lei erano prostitute? Ma non mi interessa questo fatto, ci possono essere anche persone che non hanno questa qualificazione ma che fanno esattamente la stessa cosa. Il confine è talmente labile che è inutile che stiamo a dire. Ho capito, questo. Dunque quei soldi che sono usciti, è che non si tratti di minorenni, poi questo. Vabbè, quello è un altro discorso. Ma i soldi che sono usciti sono contro, lei dice, contro prestazioni, cioè sono il pagamento di prestazioni di che tipo? Beh, io non ho tanti soldi, non li farei mai uscire dalle mie tasche se non avessi avuto un tornaconto. Poi non credo che tornaconto c'era. I tornaconti possono essere tanti, il sollazzo, la bellezza delle rappresentazioni teatrali, parateatrali, lap dance, eccetera. Insomma, mi pare che c'era un repertorio ricchissimo del quale si poteva valere Berlusconi, no? Senta, quindi... ma lei crede alla storia di un Berlusconi da super prestazione sessuale, no. Pompette varie, eccetera? Assolutamente ci crede? No, non ci crede. No, non ci credo. Come non ci credo Perché non ci crede? Ci sono... Ma non ci credo perché non ci credo per tante ragioni. Tra l'altro dichiara di essere stato molti anni fa, come in effetti è stato operato alla prostata, per cui questo è un fatto che comporta. Beh, ma si parla di pompette idrauliche, di. Ma di... io guardi le pompette idrauliche non siringate e cose varie. Anche se ci fossero le pompette idrauliche, lei capisce che la pompetta idraulica la puoi usare con una qualche parsimonia, però altrimenti non. Insomma, diventa proprio. Vabbè, non è esperto di queste cose lei. Mi pare io di non capire. Sono esperto di queste cose, no. Però non credo che con la pompetta idraulica si possano fare queste performance continuative con decine di persone una presso all'altra, insomma, francamente. Lei dice no, su questo ci sono come dire, no, interpretazioni di diverso tipo, però vabbè, insomma, poi, per carità, anch'io non conosco questi attrezzi, queste cose. Marco da Roma, 800 24 00 24. Marco, dica. Buonasera Cruciani. Allora, io sono un po' io sono un fedele suo ascoltatore. Sì, e allora? Però sono un po' incavolato quando ho sentito oggi l'apertura e non ho sentito da parte sua su Lampedusa show che ha fatto il nostro caro Presidente del Consiglio. Cosa devo dire? No, cioè non si può giocare sulla miseria della gente e andare a fare un comizio. Ma l'ha detto l'avvocato Taormina, io ci ridiamo sopra, che dobbiamo fare di più? Ci ridiamo sparare sopra, col mitra, che dobbiamo fare? No, lo so, però da parte di, perché lei è un giornalista e anche bravo quando vuole, e su queste cose non dovete essere, non ci dovete passare sopra. Ma come perché, ma noi che nessuno ci passa sopra, tant'è che ne parliamo per tutta la serata del Berlusconi Show a Lampedusa. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo dire una vergogna, è uno scandalo. È una vergogna. Lo dica lei, Marco. È una vergogna, per la gente che lavora, per la gente onesta, per la gente che vuole bene questo paese, anche come me, che non sono nato qua, sono figlio di italiani e voglio bene l'Italia. Scusi, però perché è una vergogna per la gente che lavora, la gente onesta? Cioè fare un comizio, anche una cosa demagogica, eccetera. La demagogia fa parte anche della politica, se vogliamo, uno la può criticare, eccetera. Però, perché è una vergogna nei confronti della gente onesta? Questo non l'ho capito. perché lui approfitta qualsiasi momento, non interessa se la gente sta soffrendo, se la gente ha problemi col lavoro, se la gente ha problemi con per esempio adesso è scoppiato un'altra volta il fatto della monnezza a Napoli, sì. E lui approfitta tutte queste cose puntualmente per guadagnare quella percentuale, quella popolarità che lui segue ogni giorno. Perché intanto arriva una notizia, caro Parenzo, delle dimissioni del sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano, che ha deciso di rassegnare le dimissioni, secondo quanto riporta l'ANSA proprio in questi momenti. Sì. La decisione sarebbe legata al numero di immigrati previsti per la tendopoli di Manduria. Tendopoli di Manduria credo sia in Puglia, no? E se non sbaglio. E si dimette perché evidentemente non è d'accordo sulla distribuzione degli immigrati, insomma, credo, magari ci saranno altre. Sono dimissioni assolutamente fasulle. In che senso, scusi, Patormina? Una mossa politica come al solito, qui si fa tutto per proclami e per annunci, anche questo è un annuncio, domani a Mantovano sarà pregato di rimanere al Ministero dell'Interno e lui farà il grande gesto di rimanere. Ormai abbiamo capito tutto, guardi, abbiamo capito tutto. No, però quello che dice Taormina in parte... Perché Taormina non si candida con l'Italia dei Valori, scusa? Come? Perché non si candida con l'Italia dei Valori, Taormina? Però io c'ho il mio partito e me lo porto avanti. No, però quello che dice Taormina è vero, cioè abbiamo assistito a, per carità, Mantovano è fatto di una pasta diversa, bisogna dirlo, Taormina, questo lo può riconoscere anche lei che è ipercritico nei confronti, sì, di questo governo adesso. Sì, sì, sì. Cioè, no, una persona... Io non sono ipercritico, io guardi, sono amareggiato perché io sono più berlusconiano di Berlusconi, ma mi fa schifo il modo in cui lui ha portato avanti da 5-6 anni a questa parte la politica, basta adesso, sta danneggiando il liberalismo italiano ed europeo. Allora, perché la questione delle dimissioni, per esempio abbiamo assistito nei giorni scorsi, non so se te lo ricordi Parenzo, alle dimissioni di Giovanardi annunciate, no? Per la questione dei fondi alle famiglie, non mi ricordo bene che cosa fosse. L'ho ritirato poi. Dopodiché queste dimissioni non mi sembra che siano state confermate, tutt'altro. No, ecco, no. Non vorrei che successe la stessa cosa, come dice Taormina, cioè magari adesso Berlusconi rassicura Mantovano, no? Manduria, vedai che cambiamo le cose, e Mantovano ritira le dimissioni. Comunque, vabbè. 800 24 00 24. Senta, avvocato Taormina, l'avvocato Ghedini. L'avvocato Ghedini è un bravo avvocato o no, secondo lei? Ma io, guardi, nei tribunali non ho avuto mai occasione di incontrarlo, eppure giro tutta quanta l'Italia. Lo conosco come persona sicuramente, diciamo così, preparata, intelligente. Però, insomma, ecco, io come... ripeto... Io l'ho visto poco nei tribunali. Cioè, non sa fare i processi, dice lei? No, l'ho visto poco nei tribunali, non so se sa fare o non sa fare i processi. Da quello che succede a Berlusconi mi viene il sospetto che probabilmente è una posizione molto difficile e che rispetto alla quale non riesce a trovare un colpo d'ala per risolvere il problema e quindi ogni volta deve far caldeggiare l'approvazione di leggi l'una presso all'altra ad personam per risolvere i problemi e nemmeno quelle sono sufficienti. Poi, ma è più bravo lei o Berlusconi? Ma io sono più bravo lei o Ghedini, scusi? Ma non c'è un po' di dubbio, scusi. È più bravo lei? È più bravo lei? Non c'è assolutamente paragone, guarda. Cioè, mi scusi, in che senso non c'è paragone? Beh, insomma, io sono sicuramente un grandissimo avvocato. E chi guadagna di più, Ghedini o Taormina? 1,3 milioni l'ultima dichiarazione di Ghedini. Beh, lei? Mi meraviglia 1,3 milioni perché, francamente, insomma, mi pare... dalle cifre che conosco dai giornali delle somme pagate da Berlusconi a Ghedini agli avvocati, posto che Pecorella da molto tempo è stato messo in disuso perché anche lui ha avuto il coraggio di dire quello che pensava qualche volta, sì, e quindi è stato immediatamente emarginato, ma penso che la gran parte dei soldi che ha pagato Berlusconi l'ha pagati cioè lei sta dicendo che gli ha passati i soldi in nero, siccome non risulta dalla dichiarazione dei redditi è troppo bassa, ma quella dichiarazione dei redditi questo lo dice lei, io non lo so. Berlusconi dice che ha pagato 400 milioni, Ghedini dice che ha preso 1,2 milioni, io non mettetevi un po' d'accordo, insomma, ecco. Cioè lei dice dalla dichiarazione dei redditi si evince che Ghedini guadagna troppo troppo poco rispetto alle frasi di Berlusconi, questa è la cosa. Beh, si mettessero d'accordo tra di loro, insomma, il gatto e la volpe, insomma. Ecco. Vabbè. Parenzo, che vuoi chiedere all'avvocato Dormina su Ghedini? Chiedi qualcosa su Ghedini. No, io sono frastornato perché sono entrato in una tabaccheria qui alla Tiburtina e sì? C'è Cruciani alla radio. Ma questo è splendido, è meraviglioso. È meraviglioso, c'è qui il tabaccaio che ti passo, che ti vuol salutare. Sì. Saluti Cruciani. Ciao Cruciani. Sì, buonasera signor tabaccaio, buonasera. Lei ascolta sempre la Zanzara? Sì, sì. Beh, questo è spettacolare, la ringrazio molto. Abbiamo fatto il club dell'ambulanza qua. Club dell'ambulanza, questa la mandiamo ogni tanto a chi interviene, ascoltatori, nonché ospiti. Senta una cosa, signor tabaccaio, ma io come sono, berlusconiano oppure no? No, mi dica subito. Laziale, quello è il problema. Vabbè, quello che c'è. Quello, lei è della Roma? No, tifo Napoli. Tifa Napoli, vabbè, ho capito. Dunque, non è che siamo per forza la in contrasto. La mia città. Senta un po', grazie signor tabaccaio, buona serata. Buona serata. Signor Taormina, lei è super tifoso della Roma, mi sembra, o sbaglio? Io sono super tifoso della Roma, ma adesso il Napoli è una mia passione. Adesso perché lei si candida a Napoli, adesso non faccia il candidato come non mi faccia Berlusconi. Ma faccia il paraculo, stia tranquillo. Ic bin napolitanen, ic bin. Non è che lei mi fa così, io sono napoletano. Senta una cosa, ma lei è super tifoso a Roma, ma questo americano come lo vede lei? Ma io speriamo che non sia una sola, guardi, francamente. C'è un po' di sospetto, o no? I movimenti non mi piacciono, dico. Cioè, che cos'è che non le piace? Ma non lo so, questo tentennare, questa richiesta continua di garanzie che l'Unicredit fa, non si spiega, perché insomma il gruppo è stato manifestato sempre come solido, si sono aggiunte altre persone, anche questo fatto che si siano aggiunte altre persone, in genere si aggiungono altre persone quando quelle che ci stanno non ce la fanno coi soldi, sì. Quindi insomma mi pare una situazione un po' ancora oscura, un po' strana, ancora oscura. Abbastanza oscura, sì. Valerio da Macerata, sì, dimmi Davide. No, volevo chiedere al professor Taormina, visto che si è lanciato in questa jacuzzi nei confronti del collega Ghedini, sì. Ma Berlusconi deve andare in tribunale, è giusta questa strategia, o lui invece fosse avvocato di Berlusconi gli consiglierebbe di non andare ai processi? Guardi, anzitutto io non sto accusando Ghedini di nulla, sto dicendo che non l'ho visto mai in tribunale e ho osservato quello che ha fatto nella difesa di Berlusconi fino a questo momento, ecco, sì. ho registrato da buon notaio. Secondo me è un gravissimo errore quello che sta consumando Berlusconi, perché il processo Rubi sarà devastante per la sua, anche se ingiustamente devastante, perché ritengo che dovrebbe essere assolto perché le prove degli elementi integrativi del reato non ci sono, però sicuramente la Boccassini, che ha due palle che non finiscono mai, si mette in tasca Ghedini e Longo, i due avvocati che lo rappresenteranno nel processo. Ah, cioè lei dice che la Boccassini, che ha due palle così, lo ripete, che abbia avuto un problemino con la Boccassini c'ha due palle così, cioè in che senso? Sì, ha proprio due palle così, io la conosco da 30 anni. Cioè un carro armato. Non si scappa. È brava. Bravissima. Per cui tra Boccassini e Ghedini Longo chi vince? Bah, vabbè, non c'è paragone, non c'è storia. Non c'è storia, cioè la Boccassini no. se li mangia vivi. Esatto. Perché è una guerra tra avvocati questa qui, però è una guerra tra avvocati. Però scusi Taormina, ma Berlusconi allora in aula ci deve andare o non ci deve andare? Secondo me no. Non ci dovrebbe andare. Anche perché se pensasse a fare il Presidente del Consiglio forse sarebbe molto più utile. Senta, ma in uno scontro all'arma bianca tra Boccassini, carro armato come l'ha definita lei, cioè una Boccassini forte, insomma che se li mangia, e Berlusconi invece che poi è altrettanto puntuto, chi è che dice? Quello è un bello scontro. Quello è un bello scontro. Però lei anche non... perché Berlusconi sicuramente la sovrasterebbe dal punto di vista della comunicazione, ecco, il da Boccassini sotto questo profilo è un tecnico molto agguerrito, molto abile, però non ha certamente la capacità diciamo dialettica e di comunicazione di Berlusconi. Però lei non glielo consiglierebbe questo scontro. Però lei deve sapere, sì, che Berlusconi in aula o fa dichiarazioni spontanee o non può proprio parlare, perché nel nostro sistema l'autodifesa è vietata, possono parlare solo gli avvocati. Vabbè, ci può essere anche un interrogatorio, che ne so, una cosa del genere. No, interrogatorio no, c'è il momento dell'interrogatorio, può fare delle dichiarazioni spontanee, ma non è che può stare là 10 giorni al mese a fare dichiarazioni spontanee. No, quello perché no, certo. Sta appunto Probabilmente teme che i suoi avvocati non siano preparati. Ah, dice lei, teme che non siano preparati, per questo ha annunciato la presenza. No, va bene. Faccia, avvocato, faccio una ringa di 30 secondi, fa come se lei dovesse difendere, fosse in tribunale, l'avvocato, la ringa di Taormina per difendere Berlusconi. Ma no, ma non c'è anche qui storia, perché, ripeto, di fronte alla acquisita prova che tra Rubi e Berlusconi non c'era, non ci poteva essere addirittura nessun rapporto sessuale, sì. Tenuto conto che la nipote di Mubarak comunque a un certo punto potrebbe effettivamente risultare tale, soprattutto adesso che Mubarak non parla più, io credo che non ci siano elementi né per la concussione minorile né per la concussione. Ma lei naturalmente non crederà che Berlusconi pensava che fosse la nipote di Mubarak, immagino, no? Quella è tutta una storia inventata, o sbaglio? Vabbè, però insomma. Si fa anche questa, è una porcata, è una porcata pure questa, no? È una porcata anche questa, no? Giusto? È tutta una porcata. Avvocato Dormina, beh, una porcata la più grande, la più grande porcata è la riforma costituzionale della giustizia. Quella è la più grande porcata. Vabbè, la separazione delle carriere, lei è d'accordo? No, io sono d'accordo sulla separazione delle carriere. E allora? Ma non sono d'accordo sul fatto che si debba fare con riforma costituzionale. Si possono fare esattamente le stesse cose con una riforma di legge ordinaria e invece si è scelta la costituzionale per non fare nessuna riforma. Senta, voglio dormire, mi scusi, ma torniamo alla questione del nipote di Mubarak. Lei dice che è una porcata dei difensori, una scappatoia, io la chiamo porcata perché insomma, questo termine l'ha usato anche lei. Sì, ma io non per questa cosa qua, le porcate le ho dette per legge, ma pure questa è una porcata, pure questa. Ma no, ma questa lo dice lei che è una porcata, io dico che è una sola, ecco. È una sola, in che senso? In che senso una sola? Beh, a Roma si dicono sole appunto quelle cose che possono non essere vere. Ma si usano, un difensore le può utilizzare queste cose? Sì. Beh, noi facciamo di tutto, sì. Fatele peggio, ma giustamente i difensori fanno di tutto, fanno di tutto. Certo. Anche i pubblici ministeri fanno di tutto. Poi lei, la vicenda Frazzoni se l'ha inventata di tutti i colori. No, io non mi sono inventato niente là, mi sono inventato il modo per difendere una persona che continua a ritenere innocente. Però anche lei ha fatto di tutti i colori, nel senso. Conferenze stampa, rivelerò il nome dell'assassino. L'ha fatto di tutti i colori dal punto di vista mediatico, l'ha fatto di tutti i colori. Il nome dell'assassino ce l'ho, infatti, nessuno me lo toglie. No, fermo, non dica qua, non dica il nome dell'assassino. No, fermo. Ci manca solo quello, ci manca solo che dice il nome dell'assassino. Ci manca solo Ghedini. Chi è stato Ghedini? No, perché no, Ghedini era occupato in caccia all'alibi. Senta, ma La Russa, che oggi è stato protagonista di quella mezza rissa alla Camera, che ne pensa di La Russa? Lapidario, poi devo dare la linea alla pubblicità. Sulla ma Russa. Vuole che si ma se lui è uno che da vecchio picchiatore si sarebbe potuto ben difendere, non capisco perché è andato cercando la solidarietà della sinistra, insomma. Quando la sinistra sarà sempre la sua. Qualcuno dice che ha attraversato quella folla lì per provocare, lei ci crede? No. No, tutte cazzate. Pubblicità 800 24 00 24. Questa è La Zanzara. David Parenzo dal Torpedone, Roma, Siena, anzi dalla stazione Tiburtino dove si trova in questo momento. Da Roma sempre l'avvocato Carlo Taormina, leader di Lega Italia, si sta preparando alle elezioni a Napoli, dove ha una casa, dove ha qualche interesse, ma insomma con Napoli alla fine non c'entra niente, diciamo la verità, questo ho capito, c'entra poco, però si candida a Napoli. Prima di sentire qualche titolo dei TG serali, caro Parenzo, 800 24 00 24, sì. Voglio ricordare alcune piccole notizie che magari faranno discutere e intervenire i nostri ascoltatori. Innanzitutto la proposta di Masi al CDA della RAI sulla guida del TG2 non è un argomento che può interessare tutti, però insomma ha proposto la Petruni, detta anche farfallina Petruni, no, da qualcuno, per la questione dei regali di Berlusconi, eccetera eccetera. Petruni alla guida del TG2, ma c'è un'opposizione, una spaccatura all'interno del CDA della RAI, insomma la solita roba. Poi la Lega vuole Ferraro da Sky TG24 come vice di Minzolini addirittura al TG1, ma anche qui c'è una spaccatura, insomma non c'è unanimità. Poi ancora la barzelletta di Berlusconi, ve la voglio ripetere, durante un indagato altro 70%, di nuovo? Questa è la barzelletta di Berlusconi. Non riusciamo a collegarci con il professore Luttuak, lo faremo più avanti naturalmente, e però devo sentire, prima di tornare e chiudere con l'avvocato Taormina, con la signora Dora dalla provincia di Milano. Buonasera. Buonasera signor Colciani. Farò un intervento brevissimo. Io voglio dare una diversa chiave di lettura all'intervento del presidente Berlusconi oggi a Lampedusa. Sì. Secondo me ha ridato con le sue parole dignità a queste persone che hanno da sole sopportato tutto questo disagio. Gli ha dato delle agevolazioni fiscali che era... Beh, gli ha dato, ha promesso, signora Dora. Ha detto, cioè, non è che ha dato. Io spero che se uno si impegna formalmente e verbalmente di fronte all'Italia poi le mantenga. Ma io non credo più a nulla, signora Dora. Cioè, in Italia purtroppo, tra le parole allora e i fatti, c'è un mare magno. Comunque, il mio pensiero è questo. Cioè, lei ha detto ha sollevato lo spirito dei lampedusani. Assolutamente, ma ha cercato anche di salvare la stagione turistica dicendo verrò al mare qui. Secondo me questo è il messaggio. Ma questa non l'ho sentita, verrò al mare qui, non l'ho sentita. Lei l'ha sentita, verrò al mare qui? No, comprerà casa a Cala, attenzione, non so che cosa, di fronte al mare. Lei... Io questo è quello che recepisco. Ha capito, avvocato Dormina? Berlusconi ha convinto qualcuno con questo discorso? Ha convinto un sacco di gente, secondo lei, oppure no? Cioè... Ma guardi, il messaggio è un messaggio accattivante, come tutte le cose che fa Berlusconi. Il grave è che, c'è, che purtroppo c'è, come la signora che sta telefonando, ci stanno... moltissime altre persone che ancora cascano nella trappola. Questo è il problema. Bisogna cercare di convincersi piano piano, sì, che c'è un'altra politica, che c'è un altro modo di essere. Per cui tutte queste cose Berlusconi non le farà mai, l'ha già detto prima da noi, no? Zero. Secondo me, insomma, se, ripeto, L'Aquila e Napoli sono l'esempio di come si comporta Berlusconi. Beh, qualcosina Sara, all'Aquila è stato e fatto, poi dopo, no? La cricca gli sgretola tutto quello che ha fatto. Ma chi è sta cricca? Lei quando dice la cricca intorno a Berlusconi, chi è? Ha una connotazione specifica giudiziaria, perché sappiamo nomi e cognomi di quelli che fanno parte della cricca. Cioè Verdini fa parte della cricca? È la punta dell'iceberg. Poi c'è, invece, non poi, c'è tutta una pletora di situazioni, di aggregazioni di interessi, di sinergie tra le varie tra i vari obiettivi che si, che si perseguono, che fanno intorno a quest'uomo una incredibile forza della economica e politica. Senta un attimo, avvocato Dormina, ma quelli che stanno intorno a Berlusconi, chi è il più, insomma, quello che il più pericoloso secondo lei? Verdini. Beh, pericoloso in che senso? Verdini è pericoloso, cioè quello consiglia male, quello che sono tutti quanti che hanno questa caratteristica. Che caratteristica? Primo, tutelare i loro interessi, sapendo che finendo Berlusconi sono figli anche loro. Secondo, hanno veramente in questi anni, attraverso il potere centrale e locale, raccolto una serie di poteri forti che li fanno essere... Dunque il primo chi è? Verdini, giusto? Ma tutti sono sullo stesso piano. Non è che... Tutti affaristi. Tutti affaristi, politici affaristi. Esatto, questa è la... Pure il povero Bondi, no? Ma Bondi è una delle persone più... diciamo più apprezzabili, devo dire. Ha il torto di essere, diciamo così, piuttosto curvato sulle scarpe di Berlusconi. Come curvato sulle scarpe di Berlusconi? Lei dice troppo servile, no? Mi pare evidente. È avvelenato, Taormina, ma avvelenato. Professore Taormina, la ringrazio molto di questa conversazione. Grazie a voi. A presto. Buonasera, sono molto contento che lei sia uscito dalla sua vicenda, innanzitutto, non gliel'ho detto. Grazie, quella è la cosa più importante, alla faccia di tutti i miei... Di chi le voleva male. No, ma mi vogliono male, sempre peggio mi vogliono. Adesso di più, perché molto bene e quindi mi posso riattaccare come vogliono. Grazie. Arrivederci, buonasera. I titoli della 7. Prende corpo la soluzione politica per Gheddafi, forse un esilio in Uganda che si candida a ospitare il Rais, ma intanto sul campo le forze lealiste a Gheddafi riguadagnano terreno, riconquistano Brega e ricacciano gli insorti verso Bengasi. A Lampedusa lo show di Berlusconi che dice in 48 ore libereremo l'isola dai migranti e poi la rilanceremo, io stesso ho appena acquistato qui una villa, poi la conferenza stampa. e la battaglia di cui vi parlavo sul processo breve alla Camera. La maggioranza approva il blitz, in aula si scatenano le proteste, tra Fini e La Russa volano parole grosse e la seduta viene sospesa perché all'esterno va in scena una manifestazione piena di tensioni. Rubygate, il 5 aprile, proprio alla vigilia della prima udienza del processo, va in aula alla Camera il conflitto d'attribuzione. Intanto è caccia i testi eccellenti, ma Clune e la Canalis prendono le distanze, annunciano querela. Noi non siamo mai stati a Arcore. In Giappone, livelli di radioattività 3.000 volte oltre la norma. La situazione è grave, ammette l'Agenzia per l'Energia Atomica, e da Fukushima fanno sapere l'unica soluzione è chiudere quei reattori in un sarcofago, ma al più presto. L'incredibile storia del delitto dell'orgiata 20 anni dopo. Per il filippino incriminato si sono chiuse le porte del carcere. L'accusa è quella di omicidio volontario. A accusare una macchia di sangue compatibile col suo DNA. Ma basterà questo a inchiodarlo? Bene. Parenzo, sei partito? Sto per partire, ho appena messo nella stiva le valigie. Sì. E troppo partiamo. Beh, spettacolare quel tabaccaio che stava sentendo la zanzara a tutto volume. A tutto volume, sono entrato, mi ha regalato una bottiglia d'acqua. Lei dice, lei è Parenzo? Sì, volevo una bottiglia d'acqua. Ma no, gliela regalo io. Dico, ma perché? Senta qui, alza e sento Cruciani. Beh. Va bene. Io vi farei sentire anche Kennedy, eh. È bello sentire Kennedy, no? Beh, dici? Kennedy, sì, Berlusconi anche. Sì, Kennedy sulla IC. Sentite. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word. Mi sento berlinese e Berlusconi mi sento lampedusano. Dato che voi sapete che io sono solo prestato alla politica, ma sono un imprenditore, cioè una persona concreta, mi sono ieri mattina domandato, ma incontrando i lampedusani, come posso io dargli la sicurezza che tutti i piani che annuncerò saranno davvero trasformati in realizzazioni concrete. Mi sono detto, devo diventare lampedusano anch'io. E beh, chi potevamo chiamare per capire se cosa si aspetta da questo show di Berlusconi? Il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Come sta? Dove si trova? In un albergo, mi hanno detto. Io attualmente mi sto riposando in un albergo con degli amici. Il presidente Berlusconi è partito. Beh, stessa cosa faticoso, Raffaele Lombardo. Faticoso, Ma oggi è una giornata piena, dottore, sì, perché possiamo dire una giornata storica. Per la prima volta a Lampedusa, dopo 160 anni di storia, è arrivato un presidente del Consiglio, sì. In questo caso Berlusconi. E che presidente del Consiglio? Voglio dire, non è che la visita di Berlusconi è come quella di un qualsiasi altro presidente del Consiglio. Annunci a non finire, no, De Rubeis? Certamente, perché tra l'altro ha una grande vitalità, sì. Ha incontrato le varie categorie, ha affrontato un comizio pubblico davanti al Comune, chiarendo tutto quello che qualcuno l'ha accusato che doveva chiarire precedentemente. Senta un po', sindaco, ma mi dica la verità, qui siamo in camera caritati, se non ci ascolta nessuno, solo qualche centinaio di migliaia di persone. Però lei a quello che ha detto Berlusconi ci crede o no? Cioè il piano colore, Lampedusa come Portofino, le tasse. Entro 2 giorni ha detto, risolverà tutto entro 2 giorni. Giorni tutti via. E poi ha detto anche sulla zona franca, il campo da golf, le moratorie fiscali, fognature elettricità, i pescatori, zona burocrazia zero, il Nobel per la pace e la casa. Innanzitutto, sta casa l'ha comprata? Lei ne ha notizia di questo acquisto? Certamente. assolutamente sì, perché l'ho accompagnato io nei pressi della zona Cala Francese, sì. È una villa di un ex marchese, sì. O meglio baronessa per essere preciso, è sì. Così individuata dai lampedusani, è una vecchia struttura che è nata lì circa una trentina di anni fa, sì. E a due metri dalla spiaggia di Cala Francese so addirittura che l'ha comprata per circa €1,5 milioni. Ah, un milione e mezzo, è tanto per €1,5 milioni, oppure le vale quella villa, quella zona? Ma le dico che qui a Lampedusa si vende all'incirca sui 5.000-6.000 euro a metro quadro, però la posizione della villa è in una zona particolare, tra l'altro è l'unica, anzi ce n'è due per dirgli la verità, c'è questa villa e poi una proprietà tra le Licciardi, poi attorno non c'è più nulla, sì. Pertanto diciamo è una posizione serena, certo questo, cioè serena che vuole, posizione serena, è posizione tranquilla, ah, tranquilla in questo senso, mare, pertanto dico vale, le vale un milione e mezzo, è un buon investimento, un buon investimento. Senta, ma lei non ha paura di un po' di arrivi? No, paura magari no, perché è tutta pubblicità per l'isola, per carità, però dell'esportazione del bunga bunga a Lampedusa, no? Ma sa, in questi casi sono situazioni personali, ognuno della propria vita privata in modo prudenziale, dico sempre, può fare quello che vuole. Certo, questa villa non è che consente grassi spazi, ci sono solo poche camere. Quante camere ci sono? Ma niente, un tre camere, è comoda per 10 persone, i grandi festini si deve riorganizzare eventualmente, non è quello che c'è in altre postazioni, ma penso che il Presidente si è preso questa villa, l'ha presa per stare sereno, non per organizzare festini discutibili. Lei dice, comunque io voglio dare una brutta notizia al sindaco, però. Che notizia devi dare al sindaco? La notizia brutta è che forse il sindaco non lo ricorderà, siccome la maggioranza nel 2009 ha votato una legge per l'ingresso illegale, per il reato di per introdurre il reato di ingresso illegale e soggiorno degli sì. stranieri. Deve sapere il sindaco che questi immigrati non torneranno mai al loro paese, perché verranno processati dalla procura di Agrigento. Ah, vabbè, ma lasciamo perdere questi tecnici, lui ti addentri sempre in questi. Possiamo anche parlare di questo. No, per carità, no, non ci addentriamo dentro queste cose. Innanzitutto per dire che non andranno mai via, rimarranno qui, ma magari non rimarranno. Sì, ma magari non rimarranno a Lampedusa, perché è evidente che verranno mandati in altro. Una certezza ce l'abbiamo, nave è la prima nave, sta caricando 1450 giovani tunisini sì. irregolari. Sì. Azione Manduria, sì. Pertanto nel giro di 6-7 ore i primi 1450 giovani andranno lì a Manduria. Con dimissioni poi conseguenti del sottosegretario Mantovano per questo. Ma appunto, abbiamo la pubblicità, signor De Rubeis, poi le voglio chiedere qualcosa ancora sulla villa che ha acquistato Berlusconi e sullo show di Berlusconi di oggi, perché non è che si è comprato solo la casa, il piano colore, eccetera. Lei ci crede o non ci crede? Perché poi Berlusconi quando parla è una cosa, poi i fatti spesso non coincidono. A tra poco. Siamo qui 2015 800 24 00 24 Lampedusa come Portofino, troppo tetra, poco colore, bisogna un po' ravvivarla questa Lampedusa. Mi sono immaginato Portofino, i colori, De Rubeis. Ma di che stiamo parlando? Una situazione di colori alla Portofino, usa dirsi così, è stato un piano colore che mi piacerebbe poter attuare anche nella vostra isola. De Rubeis, ha sentito il piano colore? Vabbè, lei era là, insomma. Sì, l'ho sentito perché l'ha detto al popolo, l'ha detto in conferenza stampa, l'ha detto a mezzo mondo. Beh, insomma. Io sono convinto che in base a quelle che sono state le sue affermazioni, almeno il 60% di tutto quello che ha detto verrà fatto. Ah, ecco, abbiamo una cosa ufficiale. Dunque, il sindaco di Lampedusa, De Rubeis, credo che al 60% quello che dice Berlusconi verrà fatto. 60%, cioè che cos'è che non verrà fatto? Diciamolo subito. Il 40% che c'è dentro il 40%? Ma intanto nel 40% c'è la zona franca che deve essere decisa da un'Europa assente e non dal governo italiano. Vabbè, poi? Sull'aspetto del casinò non l'aveva dato per certo, ma c'è da vedere. E il casinò, certo, è forte pure questo, il casinò. Certo, l'aspetto del Nobel della pace non è l'Italia che lo decide, pertanto su quello che le strade, la viabilità, il piano colore, la questione del caro gasolio, che sono centinaia di mila euro, e il rilancio dell'immagine con spot sì. pubblicitari e gestioni ministeriali, queste si possono fare. Sì, ma si possono fare, no, De Rubei, se lei ha ragione, si possono fare, ma lei ci crede oppure no? Mi dica la verità, perché io ci credo, perché ho fiducia in questo personaggio che è il presidente Berlusconi, ho notato la sua grande apertura, pertanto non siamo qui in presenza di una campagna elettorale o di proclami elettorali, mi sembra che le elezioni sono un po' distanti, lui ha avuto il coraggio dopo 60 giorni di gestione un po' discutibile di Europa assente di venire qua e portare le senavi, e li ha portate, gli immigrati li sta caricando, Lampedusa la sta liberando. Poi tutte quelle che sono le altre promesse, noi siamo un popolo che abbiamo sempre lavorato con il sudore della fronte, se vengono e va bene lo ringraziamo, se non ne vengono continuiamo a vivere, non è che muore nessuno. No, ho capito, però sindaco... Non si sente preso in giro. Ecco, non si sente un po', c'è uno che arriva a Lampedusa, al di là del fatto della soluzione della vicenda degli immigrati, che pure è importante, eccetera, ma annunciare tutto insieme, mi sento lampedusano, ho comprato una casa... lo spot per il turismo, il piano colore, il piano verde, il piano viabilità, i pescherecci, il genio militare per la pulizia, le fognature, l'elettricità, le moratorie fiscali, il campo da golf, i pescatori, la zona burocrazia zero, la zona, sindaco, qualche dubbio le sarà venuto pure a lei o no? E allora mi scusi, per quanto riguarda il caro gasolio c'è un investimento annuo di circa 300.000 euro e non miliardi di euro, la questione del piano colore incide all'incirca 700.000 euro. Comprare... No, io lo so che non sono cose, ma cioè poi... non sono grosse cifre, per capirci, no? Ma il piano colore che vuol dire, poi, che bisogna ricalcare? Il piano colore significa sistemare un po' di facciate del territorio. Ma quello ci deve pensare lei, non è che ci può pensare Berlusconi. Ma no, per questo ci devono pensare i cittadini che sistemano le loro strutture e i loro appartamenti, non certamente il comune deve sistemare le strade. Ecco, appunto, i cittadini, non è che Berlusconi può decidere da solo come devono essere dipinte le case. Ma la questione del piano colore qui a Lampedusa, o almeno in Sicilia, lo decide la sovrintendenza di Agrigento. Pertanto, la sovrintendenza stabilisce i colori. Il comune, certamente con un'ordinanza, può stabilire che tutte queste case diroccate devono essere messe in sicurezza. No, beh, d'accordo, scusi, però appunto lei mi sta dicendo, sindaco, lei mi sta dicendo. Ma sembra normale che uno arriva dalla Brianza, arriva giù e dice, qua dai, Bariscia, facciamo il Portofino, via quei colori, ma che schifo. Cioè, ha detto che a Lampedusa è una tristezza pazzesca, e le case sono terrificanti. Abbiamo il traffico, però, via. Siamo qui con il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, esponente di MPA, dunque del partito di Lombardo, che in questo momento è anche all'opposizione nei confronti di Berlusconi, dobbiamo sottolinearlo, ma il sindaco se ne frega di queste cose, fa il lavoro per la sua isola. In collegamento con il torpedone che ci porta a Siena, Davide Parenzo, io qua seduto a Milano, dunque siamo sicuramente, Parenzo, in una situazione molto più comoda rispetto a quella del sindaco De Rubeis, questo bisogna sempre sottolinearlo. Certo, assolutamente, però giustamente tu facevi un'osservazione al sindaco. No, ma dico che io fossi sindaco di Lampedusa mi girerebbero un po' i cosiddetti, perché questo signore arriva qua dopo 60 giorni e dice che qui è uno schifo, è una tristezza, ci vuole il casino, ci vuole con tutti i problemi che ci sono, e l'acqua e gli sbarchi degli immigrati, arriva, rivoluzioniamo tutto, via il colore qui, mamma mia che brutte queste cazzate. Il piano verde, ma che piano verde, ma si rende conto? Sindaco, lei ha detto che il piano colore innanzitutto non lo può decidere Berlusconi, lo decidono al massimo la sovrintendenza o comunque i singoli lampedusani. Il piano verde pure, insomma, ha dato un'idea di Lampedusa come una tristezza pazzesca. E allora io vorrei precisare però una cosa, che tutte queste richieste sono state lanciate dalla giunta municipale e da un comitato spontaneo che era nato, e sono state date in mano al sottosegretario Miccichè, che li ha portati a Berlusconi. Ora, il Berlusconi, presidente, non ha fatto altro che raccogliere le richieste e parlare con Tremonti e decidere se si possono realizzare oppure no. E che cos'è che si può realizzare? Mi dica concretamente. E allora, sulla questione delle strade, sì, sulla questione di Verde, parliamo di piantumazione di piante, in considerazione che 3.000 palme, grazie al puntaruolo rosso, sono state distrutte. Ho capito, ma chi lo può fare questo? Chi lo fa? Lo fa in questo caso il governo nazionale, non fa altro che dare un contributo straordinario per tutto quello che è accaduto, non oggi, sì, ma da 17 anni a questa parte. E quanti soldi vi ha promesso da questo punto di vista? Ma no, io non ho parlato di soldi, e né tantomeno lui ha detto che interverrà, poi sarà sicuramente Tremonti a decidere chi tiene la cassa. Ah beh, allora andiamo. Vedremo quello che... Lei si fida di Tremonti? Si fida di Tremonti? Ma sinceramente io dei ragionieri ho grande rispetto, però sono molto restrittivi. Vedremo. Beh, il ragioniere, Tremonti, parlo del mio ragioniere capo. Io vorrei fare mezzo mondo, ma poi mi taglia il 70% delle idee che ho. Il ministro Tremonti fa la stessa cosa. Mi auguro che il presidente Berlusconi, prima di venire qui a Lampedusa, ha parlato, ma ha detto a tutti con Tremonti, pertanto mi auguro che lascia passare a livello economico, gliel'ha dato. Io credo dalle sue parole mi sembra chiaro che lei dica di Berlusconi mi fido, di Tremonti un po' meno, diciamo, questa è la sostanza. Possiamo dire che Tremonti deve tenere la cassa e i conti al posto giusto, pertanto ci auguriamo che Tremonti sia più clemente nei confronti di una popolazione sofferente. Questo entusiasmo che il sindaco sta dimostrando, mi verrebbe da dire benvenuti gli sbarchi allora, cioè se erano 150 anni che non si vedeva un premier, un presidente del consiglio venire a Lampedusa, se una volta che è successo sto casino questo arriva e promette tutto questo, evviva gli sbarchi, evviva la crisi libica, evviva gli sbarchi, perché Lampedusa ha dimostrato alto senso di responsabilità ed accoglienza verso tutti, non solo oggi, ma da 17 anni, d'accordo. A differenza di un'Europa assente, di un'Italia poco solidale, se poi a distanza di tempo Lampedusa può avere un rilancio di immagine per tutto quello che è accaduto, che ben venga, ma qui non stiamo barattando nulla, noi continuiamo a rinnovare quella che è la nostra disponibilità sull'accoglienza, ma vogliamo vivere di turismo e con il sudore della fronte continueremo a vivere. Senta, ma da quello che ha detto Berlusconi sembra che Lampedusa possa diventare una sorta di nuova, che ne so, lei che cosa si immagina? Cosa le ha detto Berlusconi che non è uscito fuori oggi? Io voglio trasformare Lampedusa in, mi dica subito. Berlusconi ha detto che cercherà di portare nuove soluzioni a tanti problemi che ci sono nell'isola. È un suo dovere, come anche il presidente Raffaele Lombardo, che del mio partito, ha avuto modo di dire questo, e c'è da dire che... Che ne so, una nuova Ibiza, lei come se la immagina? Una nuova Ibiza, una nuova non so che cosa, come si può trasformare Lampedusa? Ma noi vogliamo essere sereni e ritornare alla nostra pace, cercare di vivere di turismo e pesca, se c'è qualche strada in più o più colorita, che ben venga. Certo, andare a... Sentiamo poco, adesso ci ricolleghiamo con De Rubeis. Caro Parenzo, qui la situazione si fa seria, la situazione si fa molto seria, perché insomma, quando uno compra casa... Sono l'unico, contento tutti, che ti devo dire? Sentiamo Simone da Viterbo, 800 24 00 24, tra poco ci ricolleghiamo con De Rubeis. Pronto? Sì, dica. Buonasera. Rilacciandomi al discorso di Lampedusa, volevo dire che il sindaco è proprio l'emblema dell'italiano. Che significa l'emblema dell'italiano? Il sindaco che si fida delle parole di Berlusconi. No, fino al giorno prima critica il governo, l'Italia finisce a Roma, eccetera, poi basta che va giù, fa un comizietto, e ho sentito anche le urla sotto, gli applausi della folla. Quindi già questo, insomma, come a Napoli, come tutti... Cioè, lei dice che il sindaco è troppo credulone nei confronti di Berlusconi. Sì, cioè, io mi sono lampedusano, faremo nuovo Portofino. tra due giorni è tutto uguale. Ma la notizia più importante, non so se l'avete già data in apertura di oggi, è che la Minetti ha detto che potrebbe diventare il nuovo ministro degli esteri. Attenzione, è l'intervista di oggi di Rodolfo Sala, Repubblica. È un grandissimo passo in avanti per questo paese, perché da Frattini alla Minetti già c'è un passo in avanti. Non so quanto accetto la sua battuta, per carità, va benissimo Simone, però se proprio vogliamo stare alla lettera di quello che ha riportato su Repubblica, non è che ha detto che punta a fare il ministro degli esteri, cioè, o che potrebbe diventare il ministro degli esteri, come ha detto lei. Ha detto, per carità, poi è un buon titolo, è una buona cosa, in un'intervista a Repubblica durante una pausa del Consiglio regionale, la Minetti ha detto cosa mi piacerebbe fare? Al posto della Gelmini, gli ha chiesto il giornalista, e lei ha risposto: no, veramente mi piacerebbe la Farnesina. Non è che ha detto che, insomma, che qualcuno gli ha promesso che o altre cose, cioè, che è in corsa conosce per la Farnesina. Lingue. Conosce le lingue. Vabbè, lasciamo perdere. Non c'è doppio senso, No, no, per carità, per carità. Signor De Rubeis, questa storia dei pescherecci, lei l'ha capita, Berlusconi che compra i pescherecci, che vuol dire? Vuol dire che a Lampedusa noi fino ad oggi abbiamo circa 300 pescherecci, cioè carrette del mare, che hanno consentito a 20.000 immigrati tunisini irregolari di venire a Lampedusa, comprare dei pescherecci in Tunisia per il costo di circa 20 o 30 mila euro ad imbarcazione, non consentirebbe nel futuro agli immigrati, o meglio alle organizzazioni malavitose, di fare il traffico di carne umana. Cioè, scusi, non ho capito, Berlusconi che compra questi pescherecci? Berlusconi che comprerebbe questi pescherecci dal governo tunisino per non consentire alle organizzazioni malavitose. Ah, ho capito, ecco l'interpretazione. Però anche questo, lei ci crede che Berlusconi va a comprare dal governo tunisino i pescherecci? Beh, se ne possono costruire degli altri pescherecci, non è che risolverebbe la questione, no? Ma costruire immediatamente pescherecci ci vuole un po' di tempo. Io credo più a Tremonti, perché il costo nella gestione degli immigrati e dei trasferimenti aerei sono molto elevati. Comprare un peschereccio è più facile. E il fatto che Berlusconi potrebbe fare in futuro commercio di pesce fresco? Ma il pesce fresco, Berlusconi già ha comprato la villa ed è importante. Verrà perché è importante? Perché è importante? E poi, se vuole aprirsi un'attività commerciale, con la semplificazione che ha detto, gli daremo eventualmente anche le autorizzazioni comunali per aprirsi l'attività a Lampedusa, e potrà commerciare anche il pesce fresco lampedusano. Senta, ma se Berlusconi volesse allargare la casa che ha comprato, no? Mettere qualche stanza in più, sa, magari vuole invitare diversi ospiti, lei l'autorizzazione gliela dà? Non la devo dare io, la deve dare l'ufficio tecnico, ma prima ancora la deve dare la sovrintendenza di dirigente. Vabbè, però comunque, insomma, è possibile secondo lei ampliare quella casa, ma è molto complicato, cioè quella casa resta così con tre stanze come ha detto lei, oppure ma si può il sindaco può dire tranquillamente che può mettere senza alcun problema a disposizione il terreno circostante che è comunale e può tranquillamente riqualificare quel territorio, e siccome lui di soldi personali ce n'ha, e vedremo di abbellire quella zona di Calafrancese che attualmente è degradata. Però comunque altre cubature no, non se ne parla quello. Di cubature non sono io a decidere. Però lei non è così negativo, allora. Cioè, si può... come a Napoli, perché anche a Napoli dice: ho preso casa qui, voglio rimanere qui. No, a Napoli non l'ha detto, a Napoli non l'ha detto che ha preso casa. Dove lo disse, forse all'Aquila? Dov'è che all'Aquila aveva detto, scusa. No, no, nemmeno all'Aquila ha detto che aveva preso casa all'Aquila. C'è un precedente, Vabbè, abbiamo la borsa. Sindaco, altri due minuti e poi la lasciamo. È 800 24 00 24. Intanto si sta rilassando un po' con noi rispetto alle fatiche di questa giornata, insomma, Berlusconi con tutte queste promesse, giri pazzeschi, la questione dei profughi ancora, dei profughi, insomma, degli immigrati che è ancora in ballo, così si diverte anche un po'. Siamo qui 20:35, 800 24 00 24. Partito il torpedone, Parenzo? Sì, sì, partito, c'è molto traffico per uscire da Roma, anziché mandare questa borsa alle 20:30 che non serve, ma rimanda un attimo il traffico, che è utilissimo, è bravo quello che fa il traffico. È bravo, anche questa trasmissione non è male, no? Questa trasmissione è molto buona, la sto seguendo da un po', devo dire, sì. Ed è una bella trasmissione, è bella questa cosa che fai, no? Che mandi poi mandi gli audi, risentiamo gli audi, è bella. È bella, gli ascoltatori, tu che ti accapigli con loro, poi c'è sto Parenzo, è una bella trasmissione secondo me. Beh, ti ringrazio. Prego. C'è la barzelletta di Berlusconi. Voglio venire più spesso. Ma non ci sono problemi per questo. Per esempio, io voglio invitare più spesso anche il sindaco di Lampedusa, il quale oggi credo che fosse presente, caro sindaco, all'incontro di Berlusconi con alcune signore, le mamme che hanno protestato perché fosse risolta l'emergenza immigrati, e pare che se ne sia uscito con una barzelletta. Lei l'ha sentita la barzelletta, sindaco? Sì, ma non la ricordo, però... Gliela ricordo io. Durante un'indagine, dice Berlusconi, si chiede ad un campione di donne se vogliano fare l'amore con Berlusconi. Il 30% risponde magari, l'altro 70% di nuovo. Beh, l'ha sentita, no? Adesso se la ricorda. Sì, confermo. Conferma in pieno. Beh, qual è stata la reazione là intorno? Ma niente, si rideva, si scherzava, si è applaudito e poi si è cambiato discorso. E poi si è cambiato subito discorso. Non era il caso di fare barzellette, lei dice, oppure c'è bisogno di una ventata di ottimismo a Lampedusa? Cioè, c'era bisogno di questa visita? Dopo una giornata piena uno si può anche permettere, diciamo, di scherzare in modo rispettoso verso tutti. Se le donne lì presenti hanno sorriso, significa che non sono usciti indegnati da quelle parole. Senta, sindaco, lei che è un uomo del sud, no? Esponente dell'MPA, davanti a un boss che ha detto fora di balla, no? Fuori dall'Italia gli immigrati, fuori da qui, mi sembra che siete sulla stessa posizione, lo condivide o no? Ma veda, io ho avuto modo di parlare con il senatore, il ministro Bossi, e che materialmente mi sono lamentato della presenza esagerata di immigrati che vivevano in condizioni disumane. Mi ha detto che doveva intervenire immediatamente tramite il ministro, poi per ben 4 volte il ministro Maroni mi ha chiamato tranquillizzandomi che tutti partivano non certamente verso la Tunisia ma verso i centri in Italia, verso le tendopoli, e pertanto niente, e possiamo dire che questa soluzione è una soluzione buona. Mi auguro che intanto vengano garantiti ad alcuni lo status di rifugiati, e su questo guardiamo gli eritrei e i somali e lo possono avere. Scusi, però le volevo chiedere una cosa, ma rispetto alla frase di Bossi fora di balla, lei è d'accordo? Sì. Oddio, non è che sono d'accordo, io non dico fuori dalle scatole, discorrendo, certo, lo potevamo fare dopo 60 giorni di grande disperazione, di grande silenzio, non l'abbiamo fatto perché abbiamo cioè lei non la direbbe una frase di questo tipo? Oddio, io sinceramente non mi sento di dirlo. Evidentemente di un'altra pasta il sindaco, naturalmente. Senta, a proposito della casa, poi concludo, ma il Rogito l'hanno fatto oppure no? Oppure siamo ancora al preliminare all'offerta, è stata accettata l'offerta? Poi qui Berlusconi dice ho comprato la casa, bisogna vedere se poi la compra sul serio oppure no. Sì, sono fatti suoi, certo, a me può fare piacere avere qui il presidente Berlusconi ogni tanto, non dico sempre, per lui è un buon investimento. Ma l'ha fatto sto Roger? È tutto fin definito già oppure no? Posso confermare che l'ha visitata, c'erano i custodi, e certamente se ha la volontà di acquistarla lo farà a Roma, perché la proprietaria vive a Roma. Dunque non c'è ancora nulla, cioè lei non sa nemmeno se l'offerta è stata accettata, no, siamo all'interessamento. Io ho sentito quella che è stata la somma che il presidente ha messo a disposizione. Qualche giornalista metteva in discussione nel dire la volevo comprare io per 1.100.000. Caro presidente, lei mi ha rotto la piazza, nel senso che ha dato 1.500.000. Però l'idea certo non è che ha fatto un affare con 1.500.000, è cara, però possiamo dire che lui se lo può consentire, mi sembra che non ha fatto un affare. Il forum è dietro l'angolo, secondo me. Cioè, in che senso il rischio forum? Il rischio forum, vedete la trasmissione forum di cui abbiamo parlato ieri con la finta comparsa che ha messo in scena tutta quella ecco, ormai è in questa telecrazia. Puoi dire la qualunque, tanto poi comunque tutti si dimenticano tra un po' di qualsiasi cosa, del campo da golf, del casinò, la casa di tre stanze. Ma secondo te va veramente nella casa a tre stanze? E che ne so, il sindaco lo spera, il sindaco lo spera. È il peschereccio, ma c'hanno tutti scritto Giocondo sulla fronte, secondo me. Vabbè, adesso stai dando del credulone, dello stupido del al sindaco di Lampedusa. Non mai, io capisco la fiducia che ha lui, perché dice io devo governare un territorio che è in questo momento devastato da 60 giorni sotto assedio. Quindi devo credere alla qualunque deve credere, poverino, ha ragione il sindaco. Sindaco, lei si trova in questa condizione che deve credere per forza a Berlusconi, o sbaglio? Se no. Ma non è che devo credere a Berlusconi, io ho fiducia nello Stato perché la politica deve essere servizio. Se poi abbiamo a che fare con le sceneggiate, ahimè, io mi devo preoccupare. Ecco, ma questa non le è sembrata una sceneggiata, questa di Berlusconi oggi? Ma veda, nel momento in cui arriva il Presidente del Consiglio, e parliamo di Silvio Berlusconi, che è venuto qua a prendersi degli impegni chiari con la popolazione, non con me, perché non ha fatto... Ma se queste cose non arrivano, poi che fate? Io ci devo credere, poi se si è sfacciati in questa maniera di venire a affrontare un viaggio e prendere in giro una popolazione sofferente che 60 giorni ha manifestato e ha dimostrato grande dignità, ahimè, io mi devo preoccupare, ma io sinceramente ho piena fiducia, pur non essendo del suo stesso partito, ho piena fiducia sul Presidente che governa l'Italia e che è venuto a Lampedusa a prendersi degli impegni. Ecco, chiari. No, ma questa... Sulla casa resterei un po' sul punto interrogativo, perché è un affare personale. Su quelle che sono state le proposte, gli aiuti verso il territorio, certo, la certezza che ci sono 7 navi è la realtà, sono tutti qui, li vedo dall'albergo a pochi metri. Ecco, ma se poi queste cose non arrivano, che fate a quel punto? Se queste cose che ha promesso oggi non arrivano, prendete i forconi, che fate? No, quelle forconi, noi non siamo abituati a fare questo, continueremo la nostra vita e diremo, ahimè, Presidente ci ha preso in giro, ma io sono convinto che non succederà. Non arriveremo a questo, ma poi il sindaco di Lampedusa può anche partire e andare lì a Roma e a dirglielo in faccia. Io sono fiducioso, vedremo il tempo, poi ci darò ragione. Certo, il casinò mi sembra una cosa piuttosto complicata. Ma intanto sul casinò le dico questo: a differenza di altri posti, Lampedusa, essendo un'isola, non ha mafie. E allora l'idea che Lampedusa è una zona tranquilla e c'è vicino, c'è Malta e così via, possiamo dire che può essere realizzabile. Però una cosa la voglio precisare, lui non ha preso impegni per il casinò, come non ha preso impegni per come il casinò? Campo da golf, come non ha preso impegni? Io le faccio ascoltare quello che ha detto. Detto che non era in programma e che è una cosa buona e giusta da studiare, fare il golf. Ma non ha avuto la copertura finanziaria di Tremonti il golf. Copertura di Tremonti. E tantomeno il casinò. E senza il casinò. Invece la copertura finanziaria ci sarebbe per il piano colore, il piano verde, il piano viabilità, la pulizia, le fognature, l'elettricità, moratorie fiscali, bancarie e finanziarie. Non sono milioni di euro. No. Quanto è tutto? Tutto il pacchetto? Ma mi sembra sui 20, non vorrei. 20 che? Sui 40 miliardi di vecchie lire. 20 milioni di euro. L'unica cosa significativa è la moratoria fiscale, questa è l'unica roba giusta e intelligente, il resto secondo me è fuffa. Va bene, sindaco, grazie mille di essere stato con noi, il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, 800 24 00 24. Continuiamo con la zanzara, non ci arrendiamo mai, lottiamo come leoni, caro Parenzo. Mai. Perché Bernardino, che è un omone grande, Bernardino perché De Rubeis. È un omone enorme, altissimo. Bernardino, uno non si può chiamare Bernardino, anche se è un omone grandissimo, che vuol dire? No, però è divertente, il nome Bernardino. Evidentemente a Lampedusa il nome Bernardino è un nome che si può usare. Invece è un omone gigante, no? È un omone alto. Ma lei tu dici perché Bernardino te lo immagini piccolo, sì, è un omone grande. Bernardino uno si immagina, no? Un signore, un po' gracilino, no? Poi invece Bernardino invece è grosso, è alto Bernardino. Stefano da Torino, buonasera. Dettagli buonasera. Sì, importanti. Pronto? Sì, Stefano, dica. Sì, buonasera. Senta, dottore, io dovrei entrare in una lieve, piccolissima polemica con lei, cioè farle qualche appunto, diciamo, dal mio punto di vista. Andiamo avanti, sì, Stefano. Sì. No, ma guardi, io ho molta stima invece di lei, questo lo voglio fare come premessa, perché sì. Io, ecco, credo, lei fa parlare moltissimo la gente, è molto oggettivo, secondo me, quindi non è che voglio accusarla di berlusconismi o antiberlusconismi. E allora, di che parliamo? Parliamo però delle dichiarazioni di Berlusconi che io ho sentito oggi per l'ennesima volta e abbiamo anche dei precedenti, prima di Lampedusa c'è stato Napoli, c'è stato L'Aquila, i terremotati, interventi in 48 ore. Adesso qui mi sembra che passi il messaggio, cittadini state tranquilli che tanto la situazione si risolverà perché l'imperatore si compra la casa, quindi se ce l'ho io la casa il problema si risolve, cioè è una cosa molto... personale, questo rapporto è personale, cioè io vengo aiutato non in quanto cittadino italiano, sì, vengo sì. aiutato perché l'onnipotente si fa la casa qui e questo è il messaggio che passa. Adesso Stefano, un po' è così, però è Berlusconi, come dire, è Berlusconi, insomma, è Berlusconi. Ma qual è la critica? Non ho capito qual è la critica. È dall'inizio della trasmissione che stiamo prendendo in giro la presenza di Berlusconi a Lampedusa, il modo in cui si è esplicata. Che dobbiamo fare di più? Non capisco. Cioè... No, io le dico subito questo. La critica è questa. Questo modo di fare politica con sì. le battute, con il terra-terra, ecco, è secondo me è deleterio, sta portando questo paese a una perdita di senso civico proprio. Sì, d'accordo, però Stefano, non allargherei questo discorso al modo di fare politica di Berlusconi, per carità. È lì che io invece sono in dissenso con lei, perché lei invece è molto sornione, prende ma non è che sornione, non è che sono sornione, ho chiamato il sindaco di Lampedusa, che è un uomo che deve amministrare il suo territorio, e lui crede a Berlusconi, alcune cose si possono fare, il 60% delle cose che ha detto si possono fare, il 40% no, questo ha detto. Valuti lei, dopodiché è evidente lo show. Per me è assurdo che un presidente del Consiglio vada lì. Capisco il motivo, capisco che quello che è la politica, il marketing, eccetera, eccetera. Però certo, Berlusconi che va lì e promette il campo da golf, o comunque dice ne possiamo discutere, il genio militare per la pulizia, comprare i pescherecci in Tunisia li compra lui, compro la casa, divento lampedusano, Nobel per la pace, eccetera, eccetera. Tutto questo mi sembra cabaret allo stato puro. Però detto questo, Stefano, è Berlusconi. Cioè, ancora una volta ripeto, è Berlusconi. È Berlusconi ed è una rovina per questo paese. Vabbè, questo aggiunge lei, ma che vuol dire? La forma è sostanza. Ma le rovine sono altre, le rovine sono altre. Traffico, torno subito, non se ne vada, Stefano. Traffico. La russa, lo sentirete tra poco, insultato dalla folla mentre entra a Montecitorio, poi c'è stato lo scontro molto forte con Fini e con Franceschini, con altri esponenti del PD in aula. Qualcuno mi dice che dalle immagini viste di La Russa fuori c'è stato un ministro della difesa che non è proprio entrato direttamente a Montecitorio, ma si è un po' intrattenuto, ha un po' provocato, faceva vieni qua, dimmi tu che cosa hai da dire, eccetera, eccetera. Cioè non è stato La Russa che è entrato a Montecitorio diretto, liscio, senza dire nulla, e si è un po' fermato con la folla. È un combattente. Dopodiché sbagliate le monete, si hanno tirato le monetine. Ma qualsiasi protesta in cui ci siano le monetine, i fischi non uccidono nessuno. Assolutamente. I fischi non uccidono nessuno, come insegnano i grandi logionisti della Scala, peraltro. Sentiamo quello che hanno detto La Russa in parte. Con Stefano da Torino. Sì. Allora, come voleva concluda Stefano? Beh no, ecco, io questo dicevo, a che punto dire sì, ma è Berlusconi, è così, è una cosa che si è sempre fatta, però alla fine è qualcosa che fa scadere il livello, la sensazione proprio anche nei cittadini del partecipare a una cosa comune. È un problema dell'Italia, l'abbiamo visto anche recentemente nel 150enario, si parlava anche di questo. Chiaro che questi atteggiamenti, secondo me, non ci portano avanti, ci lasciano indietro, direi. Ora non so lei cosa ne pensi, però ecco, io vedo che lei, ripeto, che io stimo tantissimo, quindi non è che le faccia un'accusa di essere di parte, però anche per il taglio della sua trasmissione, lei è portato un po' a sorridere a queste cose. Invece io smetterei di sorridere, perché secondo me stiamo eccedendo. Ecco. Va bene. E volevo sapere cosa ne pensa lei di questo. Beh, cosa ne penso? Cosa ne penso del mio atteggiamento, Stefano? Cosa non è una grande considerazione che posso fare su questo. Le affronto così perché secondo me, per quello che mi riguarda, è l'unico modo per affrontarle. Massimo da Salerno, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Premesso che sono di Salerno, sì, a Salerno questo... le conosce molto bene De Luca. Sì, lo conosco bene. Ho sentito parlare, l'ho ospitato qui in trasmissione, eccetera. Quindi sappiamo anche di che lato politico sia. Del Partito Democratico, allora che vuol dire? Standing ovation a Berlusconi. Addirittura. Assolutamente, per quello che ha fatto a Lampedusa a me è piaciuto troppo, ma è piaciuto perché sa imbonire la folla e di tutto quello che ha detto qualcosa lo farà, sicuramente, non sappiamo cosa. Io sono un berlusconiano, Berlusconi mi ha deluso moltissimo, ma oggi è il male minore di questo grande teatrino che è la politica. Volevo dire solo questo e salutarle, complimenti. No, beh, non è che crede alle favole, l'ascoltatore certo, da Salerno ha detto che Berlusconi è andato lì, magari ne ha sparate 100, lei dice 50 ne fa, Massimo, è così... Ho capito male. Volevo dire proprio questo, bravo. Gianluca da Verona. Compri la lampada di Aladino, va bene, creda anche alla lampada di Aladino, va benissimo. Massimo, risponda a Parenzo. Già da sempre, Parenzo. Penso che Parenzo, scusi il bisticcio di parole, esageri sempre. Sicuramente è un acuto osservatore, Parenzo, questo come lei tra l'altro. Però chiaramente lui deve tirare dalla sua parte. Beh, qual è la parte? Guardi Parenzo, Berlusconi è il male minore in Italia. Ma io, penso che male maggiore, male minore. Allora, se lei vuole credere, ma i sogni va benissimo, che se lei crede che una zucca possa diventare una carrozza, va benissimo, anche mia figlia glielo racconto ogni sera che una zucca può diventare una carrozza. Beh, ogni sera no, perché insomma... perché non ci sono mai, ma esatto. Quando ci sono gli racconto che una zucca può diventare una carrozza. Mi metto dalla parte della signora Parenzo in questo caso. Ecco, quando lei diventerà grande, c'è dovuto dire a papà, però non è che tutte le zucche diventano carrozze, e allora si sveglierà dal sogno e comincerà. Però le favole sono propedeutiche, possono servire, sono pedagogiche, possono servire. In politica le favole si chiamano palle, però Però non lo so, la zona burocrazia zero l'abbiamo sentita? La zona burocrazia zero di Berlusconi? Rimandala, è sempre utile risentirla, rimandala. La zona burocrazia zero, sentiamo, fra poco recuperiamo l'audio. La zona a burocrazia zero, certo non è come il piano colore, il piano verde, è un po' più asettico, però. Abbiamo la possibilità anche di fare delle zone a burocrazia zero. Cosa significa? Che mentre adesso... per aprire un ristorante, per aprire un negozio, ci vogliono autorizzazioni. Su autorizzazioni, là si dovrà poter fare tutto rispettando i regolamenti edilizi, rispettando le norme igieniche e sanitarie. Il comune manderà soltanto successivamente alla realizzazione dell'opera un suo incaricato a verificare che siano state costruite opere in osservanza a tali regolamenti. Superman, don't you understand? Non ho capito bene, cioè uno prima fa e poi si controlla, beh insomma. Che è quello che avviene nei paesi liberali, negli Stati Uniti, in Inghilterra è già così. Sì, ma però, in Italia è impossibile fare una roba di questo tipo. Poi perché dovrebbe farlo solo per Lampedusa? Questa è la bizzona di Auronzo Canà. Hai presente Auronzo Canà della Longobarda, nell'attore del pallone? Che dice, ma in quanti giochiamo? Il 5-5-5. Dice, come mister, giochiamo in 15? E lo sapevo, è uguale. È la bizzona di Auronzo Canà, è la stessa roba. Va bene, Leonardo da Prato, buonasera. Buonasera Crosciani. Dica. Io volevo intervenire e dire che secondo me Berlusconi è un grande, al di là del fatto di volerlo farlo passare così per una macchietta, ora sento sempre Parenzo. Guardi, proprio macchietta non lo vogliamo far passare. Cioè no, appunto direi che è un uomo ma che ma nessuno ha fatto... vuole farlo passare come una macchietta, uno può però anche osservare, sorridere, osservare qualche sparata. Ma certamente lei fa la sua trasmissione, la mette un po' sul ridere. Può fare certamente audience, ma io penso. Ma non è quella questione di fare audience, piano colore, piano verde. Ma il piano colore è piano colore, piano verde. Ma è un uomo che, secondo me, è un uomo che in tutta la vita ha dimostrato con i fatti che fa, cioè è un imprenditore, ha creato televisioni, ha dato al lavoro. Sì, ho capito, però mi sorge. Sì, Leonardo, d'accordo. È 15 anni che è in politica, è stato 3-4 volte presidente del Consiglio. Sì, però Leonardo, mi sorge un sospetto. Non può prenderlo in giro come dire. sembra una macchietta. La macchietta sembra, a mio parere, sembra Farenzo, che ha sempre da dire qualcosa. Qualsiasi cosa faccia quest'uomo, no, viene criticato, ma è così, è così. Secondo mi scusi un attimo, Leonardo, sì. Il punto non è qualsiasi cosa, perché sa benissimo che qui in questa trasmissione non c'è nessun pregiudizio nei confronti di Berlusconi. Il punto è diverso. Se tutte queste cose andavano fatte a Lampedusa, come ha giustamente osservato Parenzo durante queste ore di trasmissione, ma non è che ci volevano gli immigrati o l'invasione degli immigrati? Perché, certo. Un'altra domanda che pongo, il governo, se voleva fare il piano colore, il piano verde, le fognature, l'elettricità, le moratorie fiscali, il campo da golf, la zona burocrazia zero, la zona franca, si è svegliato solo quando c'è stata l'invasione degli immigrati? E con questo, caro Parenzo, ti saluto, buon viaggio e ci sentiamo domani alle 18.30. Ciao. Molto bene. Ciao. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.